A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio Druca in redazione, Filippo Aureggi in regia. Avevamo chiesto a questo weekend di raccontarci tutta la verità sul campionato, cosa che si è verificata ieri sera con la vittoria larga, inequivocabile, del Milan sull'Inter nel derby scudetto. E secondo me, già ve lo dico, nel fiume di parole che ci ha toccato bere la vigilia, nella lunga, interminabile vigilia di questa partita, aveva visto giusto, aveva detto giusto Clarence Seedorf, uniche parole sensate, cioè sarà un derby decisivo, e chi dice il contrario è un bugiardo. Ovviamente non lo è in termini matematici, questo sarebbe stato sciocco a così tante partite dalla fine del campionato, però ha regalato al Milan, questa è la mia idea, la libertà di stabilire, di decidere il suo destino. Poi vedremo se il Milan rovescerà il secchio con il latte tricolore e allora vedremo chi sarà il più lesto e il più bravo a berlo, oppure se si terrà in mano il manico di quel secchio fino alla fine. Indubbiamente oggi ce l'ha, nonostante il Napoli, che oggi ha, a mio parere, vincendo questa pazza partita del San Paolo 4-3 con doppia rimonta sulla Lazio, perdeva 2-0 il Napoli, poi si è portato sul 2-2, è andato ancora sotto e poi è riuscito a vincere di rigore e di rabbia per tutti i laziali, a cominciare dallo Tito che poi sentiamo, questa partita. Napoli ha scavalcato l'Inter, si è messo a 3 punti dal Milan e continua a correre quantomeno certamente verso la Champions League, e oggi ha raccolto anche, passato alla cassa crediti, insomma raccogliendo qualche credito arbitrale che in passato aveva dovuto versare con molte lacrime, con molti piagnistei, anche troppi forse. Se volete intervenire, 800 24 00 24, il numero verde, ma intanto stiamo in cronaca perché le partite del pomeriggio sono ancora in corso e ci darà una mano a raccontarle nei dettagli il nostro inviato al telefono Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Eccomi Carlo, buon pomeriggio, ciao. Mi fai un rapido quadro dei risultati? Allora, rapidissimo, Catania-Palermo 3-0, autorete Balzaretti, Berghessio e Ledesma, tutto nella ripresa. Cesena-Fiorentina, in vantaggio i viola al momento per 2-1, vantaggio di rimonta perché il Cesena nel primo tempo era andato sull'1-0 con Jimenez, poi il pareggio di Gilardino e a metà della ripresa il 2-1 di Montolivo. 0-0 tra Chievo e Samp, l'unica partita in cui non si è segnato, perché in Genoa-Cagliari invece sta vincendo il Cagliari con rete di Acquafresca al quarto d'ora del primo tempo. 2-0 a sorpresa del Lecce sull'Udinese, doppietta di Bertolacci, terzo e ventesimo della ripresa, e poi pesantissima per il momento la sconfitta in casa del Parma contro il Bari 1-0, Parisi su rigore al 19° del secondo tempo, intanto da aggiornare perché quella del Palermo a Catania sta assumendo i contorni della disfatta, 4-0 rete di Pesce, e c'è anche il pareggio di Amauri in Parma-Bari 1-1. Molto bene, e Giovanni Capuano ci racconterà questi gol in divenire, gli passerò la palla in caso appunto di gol, questi parziali. Ricordo proprio in questi istanti, come Giovanni ha detto, il 4-0 del Catania che sta distruggendo il Palermo nella ripresa, primo tempo era finito 0-0, e il colpo di testa che sto rivedendo, 36esimo di Amauri, che dà l'1-1 al Parma sul Bari. Intanto oggi, in questo folle weekend, bellissimo weekend di sport, c'è stato anche un gran premio in linea appunto con la vena di pazzia di questo weekend calcistico. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Si correva a Rezzo della Frontera sul bagnato che era grande speranza di Valentino Rossi. Alla fine io vi do l'ordine d'arrivo: vince Jorge Lorenzo, campione del mondo in carica, davanti a Dani Pedrosa su Honda. Terzo è Aiden con la prima delle due Ducati, quarto è Aoyama, quinto Valentino Rossi, sesto Barbera, settimo Abram, Crutchlow è ottavo e quindi Elias, e decimo è Hopkins. Gara pazza però, perché Valentino Rossi ha fatto la danza della pioggia, ha avuto la pioggia e poi insomma forse ha fatto vedere nei primi giri tutta la sua frustrazione, o no Mario? Raggiungendo la testa e poi rovinando tutto. Nella griglia di partenza era 12esima, un secondo e 4 dal primo, quindi c'è da fare una prima constatazione. l'acqua, come al solito, livella le prestazioni, per cui le macchine molto inferiori o i piloti meno bravi riescono comunque a sfruttare meglio queste macchine che hanno un eccesso di potenza. Quindi lo si è visto oggi. A questo aggiungi che c'è stato un grandissimo spettacolo e diciamo un incontro ravvicinato del solito tipo tra Valentino e Stoner. E questo sorpasso di Valentino, che poi è scivolato e quindi ha fatto cadere anche Stoner, non dà motivo di creare delle polemiche come fu per esempio al tempo di Gibernau. Però è chiaro che l'atmosfera che si è creata tra l'accoppiata Stoner e Lorenzo contro Valentino si è evidenziata anche oggi. Comunque Valentino ha dimostrato di essere il solito, cioè quando c'è la possibilità lui non si tira indietro, ciunta al massimo il mezzo che ha è andato bene oggi, probabilmente appunto perché non ci poteva sfruttare al massimo a causa del terreno non asciutto. Io credo comunque che sarà un campionato molto interessante. Stoner chiaramente è scontento perché avrebbe potuto o vincere, arrivare secondo, quindi adesso si trova invece con soli 25 punti, avendo davanti Lorenzo Pedrosa, che ne hanno 46 e 36, tanti, e soprattutto si trova dietro Aiden, Rossi, Ayama, Dovizioso, tutti i piloti che oggi hanno dimostrato che anche se i partenti sono solo 16, il campionato è interessante perché sono molti quelli che possono combattere. Sì, soprattutto quindi se adesso... il più forte, netta, il più forte in maniera netta in questo avvio di mondiale, cioè Casey Stoner, va per terra. Volevo dire, Mario, è stato un peccato questa partita strana. Intanto c'è un risultato che cambia, ma forse no. Quello di Cesena. Giovanni? No, assolutamente, gol annullato per fuorigioco, era la rete del pareggio del Cesena per 2-2, difesa però della Fiorentina che si era fermata sotto porta. C'è stato il tocco a superare Boruc, ma a quel punto anche l'assistente ha sbandierato, tra l'altro fuorigioco netto. Sì, nettissimo fuorigioco dell'attaccante del Cesena. Mario, dicevo, la gara di oggi è un peccato per un altro motivo, al di là di queste prime sportellate tra Rossi e Stoner, perché Simoncelli sembrava poter mettere le mani su questa corsa. Certo, infatti è cresciuto benissimo, mentre Dovizioso ha sicuramente qualche problema, ma non si sente tranquillo perché è uno molto preciso, molto attento, e Simoncelli è uno che si butta allo sbaraglio e oggi stava facendo la corsa perfetta. Purtroppo le condizioni del terreno, i tipi di pneumatici che sono stati adottati, unica scelta tra l'altro, non si adattavano alla perfezione, per cui bastava un piccolo errore come è stato quello del resto di Valentino per uscire di pista, ma comunque anche Simoncelli è senza dubbio tra i protagonisti, e basta pensare che tra quelli non classificati ci sono Edwards, Spies, che è un altro che bene o male sì, certo, non va come Lorenzo però cammina, De Pugnier, che di quelli con la Ducati è quasi sempre uno dei più veloci, il Simoncelli e lo Stoner. No, quindi certo, sono venuti certo a mancare 5 protagonisti. Ah, sicuro. Ma guarda, è stata come sempre molto interessante. Sicuro. Adesso c'è una pausa lunga perché diciamo il prossimo Gran Premio è abbastanza lontano, quindi la Ducati ha tempo, secondo me, di cercare una soluzione per mettere Valentino nelle condizioni di avere una moto competitiva come quelle degli altri. Sì, certo. Io non credo che il terzo posto di Aiden e il quinto di Rossi, per chiudere Mario, siano in una gara come quella di oggi indice di una Ducati che ha fatto dei progressi. Sì, no, senza dubbio no. Ne avevo già parlato in precedenza. Purtroppo modificare la Ducati, in particolare il telaio della Ducati, non è una cosa così facile come farlo per altre moto. C'è però da dire che la sensazione è che sia più vicina. E poi soprattutto c'è questa conferma che Valentino forse sperava di avere prima una macchina competitiva, però si vede tutto il suo impegno nella preparazione della macchina per quel po' che gli riesce e nella grinta della gara. Certo. Anche se oggi, come dico, non ha tagliato la strada, è caduto davanti a Stoner che gli è andato addosso. Qualcuno potrebbe obiettare, ma perché? Ma infatti l'arrabbiatura di Stoner era perché i due sono usciti di strada e quasi tutti i commissari del percorso hanno aiutato Valentino a ripartire e Stoner no. Certo. E questo naturalmente, tanto è vero che appunto si parla dell'ipotesi di rendere obbligatorio, visto che si accetta la tesi che quando uno cade può ripartire, di rendere obbligatorio l'intervento in modo incisivo e preciso. Certo. Grazie Mario, un abbraccio, a alla domenica. Prossima. Grazie, a domenica prossima, grazie Mario Poltronieri. Tra poco vi faccio anche sentire cosa ha detto Valentino Rossi Italia 1 dopo la corsa, ma prima vi faccio sentire da Giovanni Capuano cosa è successo a Cesena e poi mi pare anche a Genova, qualcosa che non ho capito benissimo in Genoa-Cagliari. Giovanni. Dunque, è arrivato il pareggio del Cesena, l'ha firmato Caserta su una palla persa a metà campo in maniera abbastanza ingenua dalla Fiorentina, apertura di contropiede, Caserta dentro l'area di rigore, una conclusione non particolarmente forte ma che i difensori della Fiorentina e Boruc non sono riusciti a ribattere. Dunque 2-2, rete pesantissima, Genoa-Cagliari, qualche istante fa, qualche minuto fa, una rete annullata a Floro Flores sugli sviluppi di un calcio di punizione, il colpo di testa vincente di Floro Flores che era in fuorigioco, se era in fuorigioco davvero di pochissimi centimetri nel grappolo di uomini all'interno dell'area di rigore, si è molto discusso, comunque rete annullata. Benissimo, allora c'è il pareggio del Cesena, ricordo Cesena-Fiorentina 2-2. Sentiamo Valentino Rossi prima di chiudere il capitolo motomondiale per poi riaprirlo quando volete, da qui alle 19 come sempre. Graditissimi tutti gli interventi di tutti gli ascoltatori che vorranno e potranno. 800240024 è il numero verde, questo invece è Valentino Rossi. Abbiamo visto che comunque sul bagnato siamo competitivi, ancora invece sull'asciutto non possiamo puntare a stare soprattutto con i primi tre, e soprattutto per la mia spalla che ancora non è al 100%, poi perché la moto ha qualche problemino che stiamo cercando di risolvere. E ci stiamo lavorando, stiamo aspettando anche delle cose dalla Ducati che speriamo che arrivino presto. Penso che non è che si possa fare una cosa che risolva tutto, ci vorrà un po' di tempo, bisogna lavorare di fino su questa moto perché in passato ci hanno lavorato poco, ecco, però anche in Ducati sono tutti molto, molto carichi e quindi speriamo di metterci il meno possibile sia per noi che per i nostri tifosi. Questo era Valentino Rossi, adesso c'è il traffico, poi torniamo insieme. Se già volete prenotarvi, ripeto, 800 24 0024, siamo qui per voi fino alle 19. Strade in diretta. Traffico in aumento su strade e autostrade. A Roma per un incidente la chiusura della statale 8 via del mare tra l'autostrada Roma-Fiumicino e il grande raccordo anulare nelle due direzioni. Un incidente avvenuto in precedenza, la causa delle code sulla carreggiata esterna del raccordo tra Casilina e Torbella Monaca. Ci sono code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna tra l'innesto con la statale della Valtidone e quello con l'Autosole. In direzione Milano si rallenta per lavori sulla A4 tra Sirmione e Desenzano. Trafficatissima in direzione Genova la 10, la Genova 20 miglia, ci sono code a tratti tra Pietra Ligure e Savona e da Arenzano alla 26 dei Trafori. Le code sulla superstrada Firenze Pisa Livorno verso il mare tra Montopoli Valdarno e Ponte de Rest sono per lavori. Ne torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Mentre siamo agli ultimi 5 minuti più recupero, c'è una certa discrepanza sui cronometri delle partite in corso, in alcuni casi siamo poco oltre il 40esimo, in altri come nel caso di Cesena-Fiorentina mancano 20 secondi al 90esimo, più ovviamente il recupero. Rifarei un quadro complessivo dei risultati con Giovanni Capuano. Dunque, derby siciliano chiuso da tempo. No, sì, derby siciliano chiuso 4-0 per il Catania che tra l'altro in contropiede è andato anche vicino alla quinta rete. Apertissima invece Cesena-Fiorentina 2-2 tre minuti fa, il pareggio di Caserta. Cesena che sta cercando in tutti i modi di realizzare la rete del 3-2, anche perché pur con questo pareggio al momento si troverebbe nella scomoda posizione di virtuale retrocesso. Chievo-Samp 0-0, non partita pervenuta. Con tantissime emozioni, non assolutamente pervenuta. Sta dando ragione ai quotisti che l'avevano tolta dal cartellone proprio per eccesso di scommesse sul pareggio. Poi ancora 1-0 per il Cagliari a Marassi sul Genoa, 2-0 per il Lecce sull'Udinese, Udinese non pervenuta, e 1-1 ancora tra Parma e Bari. Dicevamo dei tentativi del Cesena di segnare la rete del 3-2 qualche istante fa. Il pallone della vittoria l'ho avuto sulla testa Bogdani, si è superato Boruk sulla linea di porta nel respingere. Beh, mi pare che la notizia del pomeriggio, comunque, visto che ho detto prima a questo weekend chiedevamo la verità, attenzione, succede qualcosa a Parma e il Parma benissimo in questa corsa salvezza, non lo vedo esattamente come la Sampdoria. Ha segnato Alvarez. Quindi... ha segnato Alvarez in contropiede la rete del 2-1 per il Bari, metà campo completamente libera, quella del Parma. Alvarez ha avuto 40 metri davanti a sé, è arrivato davanti al portiere, l'ha freddato con un raso terra, quindi 2-1 in favore del Bari e Parma che torna in zone pericolosissime. E ho visto la nuca del presidente del Parma, Ghirardi, solo la nuca perché si stava allontanando dallo stadio, mi sarebbe piaciuto vedere la faccia e magari l'espressione del labiale. Però è chiaro che subito dopo il gol di Alvarez siamo al 47-43, quindi dei 5 di recupero concessi, il Parma si avvia a sorpresa a perdere in casa con un Bari che perde le partite, non in questo caso, che probabilmente, anzi quasi certamente perderà certamente se volete, senza far finta di niente, perderà la Serie A, ma la dignità non l'ha mai persa nel corso di tutta la stagione. Mi pare invece che la notizia del pomeriggio, quella dell'ora di pranzo, poi ne parliamo, adesso sentiamo anche le voci perché c'è molto da discutere, da chiacchierare su questa pazzeriella partita di Napoli, tra Napoli e Lazio. La notizia che sta maturando nel pomeriggio è invece quella di un Udinese che fino a ieri molti ottimisti, e oltre che i tifosi Udinese, vedevano magari anche con ambizioni di scudetto. Invece l'Udinese sta perdendo a Lecce, ma non è una sconfitta casuale, è una sconfitta pienamente meritata, perché mi pare Giovanni che il Lecce abbia dominato fin dall'inizio questa gara. Sì, è stata una partita che il Lecce ha dominato, anche se in realtà l'Udinese ha avuto le occasioni per farla sua nel primo tempo e per rimetterla in piedi dopo lo svantaggio iniziale all'inizio della ripresa. È stata una partita che ha visto i friulani molto nervosi, tantissimi gli ammoniti, tra l'altro perso Hiller che è stato ammonito ed era diffidato, dunque salterà la prossima trasferta difficile, scusa, la prossima partita in casa difficile contro la Roma. Un'occasione per Di Natale subito in apertura sbagliata, poi tantissimo Lecce, poi dopo l'1-0 c'è stato un gol annullato a Di Natale che ha scatenato le proteste di Guidolini. In realtà la posizione di fuorigioco di Natale era abbastanza netta, poi un palo di Abdi, poi dopo il 2-0 in doppietta di Bertolacci l'Udinese di fatto è sparita. Però diciamo che nelle ultime settimane in un paio di occasioni, io mi ricordo quella casalinga contro il Bari, in realtà l'Udinese aveva molto faticato, del resto è difficile per squadre ben più attrezzate riuscire a mantenere continuità di risultati con strisce molto importanti, a maggior ragione può esserlo difficile per l'Udinese. Sì, c'è un ascoltatore intanto che manda un messaggio: come mai Pastore era in panchina, oggi non ha giocato, veniva da un infortunio, e Cosmi che non ha ancora capito niente. Pastore non sta benissimo e poi veniva soprattutto dalla trasferta in Sud America, sì, con certo, l'Argentina, abbiamo visto ieri sera Cambiasso e Zanetti. Certo che l'esclusione di Pastore, soprattutto quella di Miccoli, faranno molto discutere, sì. E credo che Zamparini sarà tutt'altro che felice, visto soprattutto come è finito il derby. Sì, certo, tutt'altro che felice anche Marino, perché forse è finita addirittura a Parma con il Bari. È finita. Il Bari che ha vinto 2-1 a Parma, ed è finita anche a Genova, quindi il Cagliari ha espugnato il terreno del Genova 1-0, sottraendo al Genova qualche pensiero di Europa ancora residuo. Io voglio farvi sentire invece sulla partita di oggi, sulla partita dell'ora di pranzo, su questo 4-3 in doppia rimonta del Napoli. Napoli che era andato sotto 2-0, lo ricordo per la cronaca, il tabellino, gol di Mauri al 29esimo del primo tempo, poi Dias al 12esimo della ripresa, e lì era cambiato tutto in due minuti, tra il 15esimo e il 17esimo, con i gol di Dossena e di Cavani. Poi l'autorete di Aronica che ha dato un nuovo vantaggio alla Lazio, 3-2 al 23esimo della ripresa, e quindi rigore di Cavani al 37esimo e nuovo gol di Cavani al 43esimo, Rey espulso. Alcuni episodi, diciamo così, sospetti per posizioni di irregolari che poi di fatto non c'era un rigore molto contestato soprattutto dal presidente Rotito, quello che è stato che il gol del 3-3 di Cavani. Oggi tripletta 25 i suoi gol per la statistica, ma invece sentiamo che cosa ha detto lo stesso Cavani subito dopo questa gara. Sapevamo che la Lazio è una grandissima squadra che veniva a fare la loro partita, quindi noi sappiamo quali sono i nostri limiti e abbiamo cercato di fare il meglio, quindi adesso dobbiamo festeggiare, godere questo momento e cercare di andare avanti così come l'abbiamo fatto fino adesso. Questo era Cavani, poi c'è stato l'episodio chiave di questa gara, quello su cui giustamente peraltro si sono impuntati i laziali a partire da Lotito, che ha contestato il rigore, quella spinta di Biava su Cavani che era in anticipo su quel pallone, la spinta c'è stata, tra l'altro Biava è stato anche espulso in quella circostanza, ma soprattutto c'è stato un episodio da il classico gol, non gol, che era gol, tiro di Brocchi finito sulla traversa e poi nettamente in porta. Si è continuato a giocare sugli sviluppi della stessa azione, non era proprio la stessa azione, c'è stato poi l'autorete di Aronica, però quello era gol, quello di Brocchi era gol, come è stato poi ampiamente documentato. Mario da Verona è il primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24, numero verde, buonasera. Sì, buonasera signor Carlo. Dica. Senta, io sono simpatizzante milanista. Sì. Solitamente nei derby mi diverto ad ascoltare, a vedere o meglio gli striscioni, perché gli sfottò sono simpatici. E solitamente lo spettacolo che viene invece nel rettangolo di gioco quasi sempre insomma non è di altissimo livello. Ieri sì. Purtroppo mi sembra che le parti si siano invertite, perché ho trovato veramente di pessimo gusto alcuni striscioni contro Leonardo in particolare. Ecco, credo che sia stata una sconfitta, o meglio l'ennesima sconfitta per il tifoso sì. italiano. Ecco. Poi se mi permette un'altra considerazione. Io questo non ero allo stadio e non posso giudicarlo, posso giudicare alcune immagini che ho visto, non so se si riferisce a quello gigantesco giuda interista che è stato esposto, non so se il suo riferimento è su quello striscione, altri, io sinceramente dalla televisione ho visto qualche strofinaccio, ma non ho colto niente. Come? No, non è quello là, perché tutto sommato quello là secondo me può anche starci, sì. tutto sommato, ecco. Sono altri più piccoli, insomma, sì. evidentemente, ma che sono veramente offensivi sì, e ledono secondo me la non la starei, persona, guardi, ecco. non starei a dare tanta pubblicità a queste porcate da tifosi di bassa lega, non starei a dar tanta pubblicità a questo. Io chiedo a Giovanni Capuano, che peraltro ieri sera era allo stadio, mentre le partite sono finite tutte e tra poco riepiloghiamo il quadro, chiedo però a Giovanni Capuano, che era allo stadio, come ha trovato il clima nei confronti di Leonardo nel complesso? Io l'ho trovato esageratamente ostile, sinceramente, sì. sottoscrivo tutto quello che ha detto il radioascoltatore, di striscioni ce ne sono stati a decine e di tono decisamente volgare, anzi devo dire che la coreografia iniziale, se vogliamo, aveva anche un qualcosa di sarcastico, artistico ed era ampiamente entro limiti che si possono giudicare accettabili. Tutto quello che è successo prima, durante e dopo invece sinceramente andava oltre, e devo dirti, se proprio devo essere sincero, che soprattutto ho trovato fuori misura il modo in cui è stata preparata questa partita per quanto riguarda il ruolo di Leonardo, perché da parte dei dirigenti, dei giocatori, dell'ambiente Milan, compresi i mezzi di comunicazione che fanno riferimento al Milan a partire dal canale tematico, non è stato fatto nulla per cercare di smorzare i toni, anzi, al contrario, per chi vive a Milano ha avuto modo insomma di accedere anche a questi canali di informazione, diciamo che la partita è stata preparata molto bene, soprattutto nelle ultime due settimane. Io ringrazio Giovanni Capuano, vi do al volo i finali del pomeriggio in Serie A. Catania batte Palermo 4-0, Cesena Fiorentina 2-2, Chievo Sampdoria 0-0, scritto e scontato come i bookmakers sapevano benissimo. Il Cagliari che vince 1-0 sul campo del Genoa con gol dell'ex Acquafresca. L'Udinese che perde 2-0 a Lecce. Poi detto del Napoli 4-3 sulla Lazio, e dopo il GR torneremo a parlarne. Il Bari che a sorpresa vince a Parma 2-1. Dopo GR, riepilogo, classifica, vostri interventi, ospiti, voci, tutto quanto. A tempo di sport. Ecco. ecco che torniamo insieme fino alle 19 con le vostre voci, che voglio oggi, una giornata come questa, non possono mancare onestamente i vostri commenti. 800 24 0024, numero verde, su quel che volete naturalmente. Riepilogo rapidamente i risultati del pomeriggio dopo la vittoria del Napoli 4-3 sulla Lazio, con contestazioni laziali comprese e con il Napoli che scavalca l'Inter e si porta -3 dal Milan. Oggi pomeriggio Catania batte Palermo 4-0, tutto nella ripresa, Balzaretti, Berghesio, Ledesma e Pesce. Palermo schiantato appunto nel secondo tempo 2-2 tra Cesena e Fiorentina, Gimenez, Girardino 1-1 all'intervallo, e nella ripresa segna Montolivo al 24esimo, pareggia Caserta al 41esimo. 0-0 fin troppo scritto e scontato, quello di Verona tra Chievo e Sampdoria. I bookmakers avevano, come detto prima, già capito tutto, partita in cui non c'è stato nulla in pratica. Il Cagliari che vince 1-0 a Genova con il gol di Acquafresca dopo 16 minuti. Quindi la notizia del pomeriggio probabilmente la sconfitta dell'Udinese, netta oltre che in risultato anche nelle occasioni e nel gioco espresso. 2-0 dunque per il Lecce, doppietta di Bertolacci al terzo e al ventesimo della ripresa. E altra sorpresona, il Bari che va a vincere a Parma, inguaiando il Parma e Marino, con poi sentiremo anche dalle voci dopo partita. Chissà che per le ultime 7 partite sulla panchina del Parma ci sia qualcun altro invece del già subiudice Marino. Segnano Parisi, gol molto bello su punizione al 19esimo secondo tempo, il pareggio di Amauri al 35esimo, il gol decisivo di Alvarez al 48esimo, quindi in pieno recupero nella ripresa. Classifica: Milan 65, Napoli 62, Inter 60, Udinese 56, Lazio 54, Roma 50, Juventus 45. Si troveranno di fronte questa sera, forse l'ultima chiamata, ma secondo me è tardi per la Juventus in prospettiva Champions League, però Lazio e Udinese sono rimaste ferme. Dunque in teoria, come diceva ieri Del Neri, non so quanto credendoci, vincendo a Roma all'Olimpico questa sera la Juventus potrebbe tornare a pensare alla Champions League, ma mi sembra un sogno un po' impuri onestamente. Palermo che resta 43, Fiorentina 42 insieme al Cagliari, Bologna 40, Genoa 39, Chievo 36, Catania 35 sopra la zona salvezza ormai, con buona sicurezza per il Catania che ha stravinto questo derby. Sampdoria e Parma 32, Lecce 31, Cesena 30, Brescia 29, Bari 20, e onestamente di quelle che chiudono la classifica, Sampdoria e Parma continuano ad apparire quelle messe peggio dal punto di vista di ciò che producono. Maurizio da Bari, buonasera. Buonasera signor Genta. Dica. Sì, senta, due interventi velocissimi. Il primo è sulla MotoGP, dove a differenza della Formula 1, dove è stato introdotto intelligentemente il provvedimento del drive-thru, si può benissimo appunto ricorrere a una via di mezzo che non sia necessariamente la bandiera nera. E lo dico purtroppo nei confronti odiernamente si intende di Valentino Rossi. Sì. Poi l'altro intervento velocissimo è per rispondere al suo ospite precedente che parlava di cattiva accoglienza nei confronti di Leonardo. Ora, io sono un tifoso milanista pulito, posso ritenermi, non bevo, non fumo, non getto motorini dagli spalti. Sì. Però che cosa si attendevano? Che dopo quello che insomma a livello sportivo uno ha sofferto con l'addio di Leonardo, che fosse accolto anche bene. Ora non vorrei che a questo punto si dicesse anche che l'Inter ha perso in malo modo a causa di una no, ma queste sono fesserie. No, Maurizio, queste sono fesserie. Dire che l'Inter ha perso per questa accoglienza sono fesserie. Io credo che lo sfotò sia legittimo, che ci sia, ad esempio, quello si diceva prima, quella coreografia giuda interista poteva anche starci, essere nei limiti della goliardia da stadio, però in tutto c'è un limite, cioè non è che vale tutto perché Leonardo è passato dall'altra parte. Io continuo a pensare che Leonardo sia passato dall'altra parte perché al Milan non l'hanno voluto più, è un professionista, era libero. Se a un professionista libero offre una panchina dell'Inter oggi, Leonardo va all'Inter e dice: voglio viverla fino in fondo questa storia, questa avventura, io non ci trovo niente di scandaloso. Detto questo, sapeva anche lui e l'aveva detto alla vigilia: quello che ognuno faccia e dica quello che vuole, una certa dose sindacale di insulti e magari anche di maleducazione se l'aspettava Leonardo. Certo è che anche in queste cose ci dovrebbe essere un limite, che però insomma quando entriamo in uno stadio italiano viene superato con estrema facilità. Questo è quanto io penso che insomma, se, la trovo dall'esterno piuttosto divertente questa vicenda di Leonardo all'Inter. Molto meno divertenti sono insulti che, come detto, sono sotto la soglia della decenza. Questo è quanto. Ma dire che l'Inter aveva perso per questo è la più colossale delle fesserie. Possiamo invece dire che Allegri ha preparato la partita molto meglio di Leonardo, e questa, poi ne parliamo con calma, rimane secondo me la chiave di questo derby. Gianni da Parma, buonasera. Buonasera, io in quanto appassionato di calcio, oltre che juventino, vabbè, però mi piace anche il calcio in quanto tale, ringrazio il Napoli perché, nonostante la panchina cortissima, sì, sì, lo faccio anch'io, anche Cavani dipendente, tutto quello che si vuole, però è agganciata a squadre che all'inizio del campionato erano date 20 o 30 punti avanti. Assolutamente, assolutamente. E quindi almeno ci rinfocola il finale di campionato. Per quanto riguarda la Juve, mi sa che è l'ultimo big match dell'anno in vista dell'ennesima estate di ricostruzione. Questa è la cosa che mi preoccupa, nel senso che ogni estate si riparte sempre un po' da zero, che poi a metà anno dicono ma no, non era l'anno giusto, dobbiamo aspettare ancora. Sì. Ma il problema vero è che la Juve spende male. Non è una questione che guardi, non hanno speso. Hanno speso male e hanno un sacco di giocatori pseudo in prestito con diritto di riscatto che costano una marea di soldi, e non so che faremo, che faranno quest'estate, sì, cosa si inventano. Guardi, non lo so, non sarei così pessimista, nel senso che quest'anno, a differenza delle ultime stagioni in cui effettivamente la Juventus distruggeva tutto a fine stagione, per poi, compresa la panchina, per poi ripartire da uno zero totale, in questa stagione, secondo me, è chiaro, è una stagione molto negativa, però qualcosa può rimanere. Io ho l'impressione che comunque, giustamente, la dirigenza della Juventus abbia detto da qui alla fine, comunque, tutti sotto esame, tutti quanti, e vediamo che cosa si può salvare da questa stagione. Credo che sia un ragionamento corretto, credo che ci sia qualche giocatore, peraltro pagato molto nell'ultima campagna acquisti, che magari verrà riscattato, che possa essere funzionale per costruzioni future interessanti, e i nomi li conoscete anche voi, da Krasic ad Aquilani a Quagliarella, magari anche a Bonucci, che pure non ha giocato una stagione brillantissima. Qualcosa di buono io credo comunque da questa stagione la Juventus possa tenersi in prospettiva futura. Traffico e poi di nuovo qui con una novità. Strade in diretta. Trafficatissima la 10 da Genova a Ventimiglia verso il capoluogo ligure. Le lunghe code tra Pietra Ligure e Savona sono anche per un incidente. Ci sono code a tratti tra Arenzano e la 26 dei Trafori. Le code sulla 15 della Cisa verso Parma tra Borgotaro e Fornovo sono per lavori. Per lavori, rallentamenti in direzione Milano sulla 4 tra Peschiera e Desenzano. Sulla tangenziale ovest milanese per un incidente, 3 km di coda in direzione Bologna tra Rozzano e l'innesto con l'Autosole. Per lavori di nuovo le code sulla superstrada Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze tra Pontedera Ovest e Montopoli Valdarno. A Roma un incidente ha reso necessaria la chiusura della statale 8 Via del Mare tra l'autostrada Roma Fiumicino e il grande raccordo anulare nelle due direzioni. Sul raccordo, sulla carreggiata esterna, le code tra la diramazione Roma Sud e la Prenestina sono le conseguenze di un incidente avvenuto in precedenza. Torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Come detto, torniamo da una novità che inseriamo con la voce, le lamentele di Lotito, anche se non sono d'accordo con Aldo che scrive napoletani ladri, dillo se sei corretto, questi toni io onestamente non mi adeguo o non mi piego, scegliete voi. Lotito. Prendo atto di quello che è accaduto oggi, sicuramente la Lazio a questo punto, se riterrà che le cose debbano continuare con queste logiche, significa allora che a questo punto noi già possiamo da oggi stabilire che già fare una classifica di chi deve ricoprire certe posizioni, chiaramente, perché noi oggi siamo venuti con tanto spirito di lealtà sportiva, di rispetto delle regole, con una squadra penalizzata, voi sapete abbiamo avuto 3 defezioni per squalifiche su prove televisive e quant'altro. Quindi ecco, questo è un rigore, lo vedete tutti, noi siamo abituati sicuramente ad agire con logiche diverse, per noi la lealtà sportiva è l'elemento fondamentale, per altri forse è un optional, e allora a questo punto dice vincere a qualsiasi costo, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi maniera, non è il nostro stile. Questa è una parte, solo una piccola parte della tirata di Lotito ai microfoni di Sky, però quello che voglio proporvi da quella fine del campionato, anche per divertirci un po', non con nessuna voglia di buttarla in cacciara, ma appunto di divertirci un po', vorrei proporvi qualche numero, qualche pagella, la pagella che corre sul web o la pagella in rete. Vogliamo collegarci con colleghi di siti molto cliccati dai tifosi per capire quali sono state sul campo le loro sensazioni, quali sono grosso modo le loro pagelle. Cominciamo da Stefano Benedetti e da cittaceleste.it, sito molto vicino alla Lazio. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Io ti chiedo prima una pagella facile facile: un voto al Napoli o un voto alla Lazio oggi? Voto al Napoli 6, voto alla Lazio 7. Napoli 6, Lazio 7. Chiedimi il voto all'arbitro. Te lo chiedo dopo. Okay. Prima sul campo, un voto a Mazzarri e un voto a Reia, che pure è stato molto applaudito dai tifosi napoletani all'inizio. Vota Mazzarri 6, vota Reia 6 e mezzo. A Cavani invece? Cavani voto altissimo. Altissimo, 7 e mezzo, 8, fai tu. Devastante anche oggi. Vabbè, arbitro Banti purtroppo non all'altezza della situazione. Noi di cittaceleste.it abbiamo giudicato veramente non all'altezza. A qualcuno è venuto anche il sentore, ma voglio dire, tu stai parlando con il direttore di un sito internet che parla solo di Lazio. Io non l'ho mai nascosto di essere un tifoso laziale, sì, ma non per questo debba mettermi la maglia e la sciarpetta e la bandierina della Lazio. Sono un giornalista professionista e cerco prima di tenere giuramento, di tenere atto al mio giuramento di giornalista e poi di tutto il resto. Tutto questo per dirti che comunque è veramente difficile giudicare oggi l'arbitraggio di un arbitro di Livorno. Sì. Poi te lo ripeto, di un arbitro di Livorno. Sì, sappiamo bene quali sono i rapporti tra Livorno e la Lazio. Perfetto. Non sono solo non sono per nulla calcistici, ma solo di altro colore, di altra natura. Non è l'azione, però intanto diciamolo, perché insomma poi magari l'arbitro di Livorno. Quali le colpe principali secondo te dell'arbitro Banti? Quel gol di Brocchi. Non è un dettaglio, non lo è per niente. Il gol di Brocchi, che poi insomma stiamo parlando di un giocatore che non è proprio avvezzo a fare tanti gol nell'arco della stagione, un tiro da fuori area, pallone che urta sulla traversa, torna in campo, ma non fuori dal campo, dentro la porta di almeno 20-30 centimetri per poi schizzare via. Allora da qui potremmo anche dire che il pallone è stato tirato a velocità elevatissima, e che praticamente né il guardialine né l'arbitro sono riusciti a vedere nulla. Ma come fai a non vedere che il calcio di rigore è un tuffo plateale perché insomma poi bisogna pure mettersi nei panni dell'arbitro, sono delle persone che comunque, degli esseri umani che possono sbagliare anche loro, quindi insomma il gol c'era, però possiamo dargli qualche attenuante, diciamo così, qualche giustificazione, ma insomma il rigore è dato a Cavani, che mi sembra decisamente evidente che non sia rigore, e poi l'espulsione data al giocatore della Lazio, Biava. Insomma voglio dire, io non discuto la regola, perché la regola non va discussa né prima né dopo, va discussa all'interno dei saloni della Federcalcio o della Lega, perché è come discutere una legge, no? Intanto rispettala, intanto la rispetti, e poi dopo con il Parlamento cerchi di capire se è una legge attraverso la Corte Costituzionale, se praticamente è una legge che può essere adatta o meno alla nostra Costituzione. Quindi non discuto la regola, che comunque mi sembra già molto severa: tu dai un calcio di rigore ed espelli il giocatore, doppia punizione. Ma voglio dire, non riesco a capire come mai tu debba dare questa discrezionalità all'arbitro, che è una vera e propria arma di potere, che decide se quella era o no una chiara azione da rete. Oggi non era una chiara azione da rete. Sì, questo molto molto dubbio, in effetti, tutto quanto tu dici. Ti chiedo invece ancora un voto, perché poi Reia, al di là di questi episodi, è stato anche espulso. Reia ha detto però qualche colpa sui gol, su 4 gol subiti ce l'abbiamo anche noi, e quindi l'ultimo voto che ti chiedo è alla fase difensiva della Lazio. Cioè, ha qualcosa da rimproverarsi la Lazio da quel punto di vista, al netto di queste sviste, errori piccoli o grandi? Non c'è un gol fatto su azione. Quindi voglio dire, pecca della Lazio sicuramente, che non è riuscita, o meglio, uno c'è su azione, ma il gol di Cavani, che arriva comunque da un calcio piazzato, il primo, quello di testa, sul colpo di testa di Maggio, e poi Cavani a porta vuota, comunque lì quelli sono tutti errori, perché comunque ogni gol è un errore, ricordiamocelo, sempre non è un atto, perché la partita perfetta finisce 0-0. Sì, certo. Certo, come qualcuno aveva detto, no? Nils Liedholm, ad esempio. Stefano, io ti chiedo invece un ultimissimo voto, è quello, e ti chiedo di esprimere un numero alle chance di scudetto del Napoli. Ma no, secondo me il Milan è più forte, è oggettivamente più forte, ma quando arrivi a 7 giornate dalla fine del campionato e ti ritrovi a 3 soli punti di vantaggio, di svantaggio dalla prima in classifica, come si dice, saltano tutte le marcature. 30%? Ma sì, 30-40%. Posso dire l'ultima cosa sul sito? Sì. Se posso, sì, naturalmente. Sì. Voglio dire, cittaceleste.it è il primo sito dei tifosi della Lazio. Si può trovare anche attraverso le applicazioni, sai, quelle dei telefonini scaricabili, dell'iPhone, gratuitamente, eccetera, eccetera. Ci piacerebbe se qualcuno ci venisse a trovare, perché comunque il web è sempre molto martoriato, perché comunque è l'ultimo strumento a livello generazionale, no? Prima c'era la radio, che era quella più giovane, adesso è il web, certo, e non si dà molta importanza. Ma io non credo, io credo che sarà anzi particolarmente caldo, e comunque nelle prossime settimane altri siti e altre squadre per dare qualche numero, qualche pagella e qualche spigolatura su queste sulle partite delle grandi in particolar modo. Io ringrazio Stefano Benedetti e saluto invece un altro collega e mio amico, come Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Ciao Andrea. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Dicevo prima, qualcuno ha detto addirittura, ha avanzato l'ipotesi fantascientifica che l'Inter abbia perso per l'accoglienza riservata a Leonardo, che può aver frastornato qualcuno. Mi sembrano scemenze. Secondo me l'Inter, il Milan anche qui sono stati mille episodi, no? Però se uno guarda la partita, il Milan ha stradominato questa partita, perché il Milan ha preparato 10 volte meglio rispetto all'Inter questa partita. Cosa dici? Sì, dico che di solito si dice la forza dei nervi distesi, no? Invece stavolta è stata la forza dei nervi tesi del Bravissimo. Milan, perché è stata quella la chiave, anche secondo me. C'era proprio un diverso atteggiamento mentale delle due squadre. L'Inter era troppo sicura di sé, troppo fiduciosa, troppo sorridente. E il Milan invece in queste due settimane aveva provato una rabbia sorda dentro Milanello. La cosa che poteva sembrare uno svantaggio per il Milan invece è diventato un vantaggio, cioè il fatto che se ci fate caso la maggior parte dei titolari di ieri sera non era andata in giro per il mondo, per le nazionali, di quelli del Milan intendo, c'era stato solo lo Thiago Silva praticamente che aveva giocato, gli altri erano rimasti quasi tutti a Milanello ad allenarsi senza giocare, a guardarsi in faccia, a meditare e a rimuginare su questo derby, e la cosa poteva anche diventare un boomerang, invece è stata... hanno trovato una carica positiva, e poi Allegri è stato anche bravo a preparare la partita tatticamente. Assolutamente, ha preparato bene la partita tatticamente, ma la chiave è quella che dici tu, cioè queste partite richiedono un po' di paura, richiedono un po' di preoccupazione, richiedono la necessità di chiudersi in questo tunnel e non pensare ad altro, uscire da quel tunnel con il fuoco addosso come aveva ieri il Milan e come non aveva l'Inter, che probabilmente l'ha preparata con troppa allegria, o no? Sì, troppa allegria, troppa serenità. Troppa fiducia e anche poca attenzione all'avversario, probabilmente anche nelle scelte iniziali, anche se Leonardo è andato con la formazione migliore e con quella che gli aveva dato maggiori garanzie nelle ultime partite, con quel modulo molto offensivo che aveva funzionato in parte. Soltanto che per far funzionare quel modulo in tutte e due le fasi, quella offensiva e quella difensiva, è necessario che gli attaccanti esterni rientrino di più e che Sneijder rientri di più, e invece ieri sera non è accaduto, e loro a ogni palla persa vacillavano, quindi forse non c'è stata un'adeguata preparazione anche da quel punto di vista. Ciò detto, se poi entra la palla dietro alla fine del primo tempo, io non so che secondo tempo diventa. Cosa succede? L'Inter ha avuto quei due palloni, no? Su uno ha fatto un miracolo a Biati, ha fatto una parata, forse è stata la cosa più difficile della serata intera, quella tecnicamente quella parata di Abbiati. E l'altra è stata regalata via da Eto'o. Come scrive un ascoltatore, come domanda un ascoltatore, ti è sembrata strana questa pessima partita di Eto'o? Uno come lui, per uno come lui queste partite sono il pane, no? Sono l'aria che respira, queste grandi partite. Lo so, però sì, è strano, però è già la terza volta che accade. E fatalità è coincisa questa serata strana, queste tre serate strane sono coincise con le tre sconfitte dell'Inter nell'era Leonardo. Nelle 16 partite ne hanno vinte 12, una l'hanno pareggiata e tre le hanno perse. Forse non a caso le tre partite decisive da un certo punto di vista, perché erano tre partite in trasferta contro avversari importanti, Udinese, Juventus e Milan, e le hanno perse tutte e tre, e in tutte e tre c'è stato un ritorno pessimo, ricorderete anche a Torino quello che sbagliò nel secondo tempo. Certo. E quindi probabilmente abbiamo chiesto troppo a questa Inter, perché la rimonta era una cosa spaventosa da fare per come si era messa il campionato del girone di andata. Però per quello che ho capito, così, loro una speranziella ce l'hanno ancora, perché in effetti 5 punti con 21 punti sicuro, a disposizione, ma questo sicuro. Domenica il Milan va a Firenze, l'Inter avrà in casa al Chievo, insomma, giochi di calendario, poi c'è anche l'Inter che va a Napoli, insomma è ancora lunga. Quello che di cui io resto convinto è che la partita di ieri comunque un indirizzo deciso, se non decisivo, al campionato lo ha già dato. Andrea, ti ringrazio, ti abbraccio, grazie. Aspetto, ciao. Alla prossima, grazie ad Andrea Sorrentino. Ci fermiamo un attimo, giusto il tempo per farvi prenotare. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto qui. Le domande del risparmio, fatele all'800 28 12 12. Radio 24 e Assogestioni vi daranno tutte le risposte da lunedì a venerdì alle 12.50, e dal 6 all'8 aprile vi invitano a partecipare al Salone della Gestione del Risparmio in collaborazione con Salone del Risparmio a Milano dal 6 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Mario pesa 80 kg di vaccini, Sara pesa 50 kg di tende da campo, Marco 70 kg di kit medici. Il tuo nome ha un grande peso. Scegli Medici Senza Frontiere per il tuo 5 per 1000. La tua firma diventa il nostro aiuto concreto. MedicisenzaFrontiere.it. Nei miei soci, il primo non aveva smalta, agilità. Il secondo non ha proprio resistito al lavoro. Oggi ho scelto Ford Transit, una garanzia per 5 anni. Ford Transit, socio inseparabile. Da oggi con garanzia Ford Protect, 5 anni o 200.000 km, disponibile su tutta la gamma. Transit Connect 1.8 TDCI con clima e radio CD a 9.750 euro. Per tutti. Dai con quella gru, veloce! Tira giù! Così! Attenzione con quell'impalcatura! E spostiamoli quei tubi! Se investi con le nuove obbligazioni Dexia Crediop Serie al 4,85%, i tuoi soldi non costruiscono solo il tuo futuro, ma anche quello dell'Italia. E i tuoi risparmi potranno finanziare infrastrutture e opere pubbliche sostenendo lo sviluppo del paese. Chiedile alla tua banca o informati su www.dexia-crediop.it. Prima dell'adesione, leggere il prospetto. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Una debole perturbazione in arrivo dalla Francia porta un peggioramento domani al nord e martedì attraversa velocemente il centro-sud, portando un po' di instabilità e un temporaneo calo termico. Fin dal mattino domani moderata nuvolosità al nord, nel pomeriggio piogge e temporali su Alpi, nord-est e Lombardia orientale. Nuvole in aumento anche in Toscana e Marche, bel tempo altrove. In serata temporali su Venezia ed Emilia-Romagna. Temperature in calo di 2-3 gradi al nord, in lieve rialzo al sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E con questo è tutto. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reform. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reform. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti perché il gruppo Credit Reform è la prima società di recupero crediti del mondo con 533 milioni di euro di fatturato. Con Credit Reform, il vostro credito è sempre al primo posto. 800 425 325 o creditreform.it. Il mio primo socio. Dopo un po' ho scoperto che non era affidabile. L'altro non reggeva il peso del lavoro. Oggi ho scelto Ford Transit, una garanzia per 200.000 chilometri. Ford Transit, socio inseparabile. Da oggi con garanzia Ford Protect, 5 anni o 200.000 chilometri, disponibile su tutta la gamma. Transit Van 2002 TDCI con clima e radio CD a 14.000 euro per tutti. Ti vanno bene gli affari? Hai preso un direttore commerciale? No, ho preso una forza vendite. Un'intera forza vendite? No, ho chiamato una forza vendite all'800-777-556. Ho scelto un loro direttore commerciale a tempo parziale che ha riorganizzato vendite e marketing. E i risultati già si vedono. Una forza vendite, la prima rete in franchising di direttori commerciali a tempo parziale. Chiama all'800-777-556 o vai su unaweb.it. Certi mercati sono irrequieti, difficili da domare. In tanti cercano di avvicinarli. Noi li cavalchiamo da anni. Anche nei mercati remoti del mondo c'è un gestore UbiPramerica pronto a farti cavalcare le opportunità per i tuoi investimenti. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, fatti guidare da chi conosce la strada. UbiPramerica, tu alla guida dei tuoi risparmi. UbiPramerica ti aspetta a Milano, al Salone del Risparmio, il 7 aprile alle 12.30. Attenzione, prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. www.ubipramerica.it. A tempo di sport. Un grande piacere, riparto dagli ascoltatori che chiama a gran voce, soprattutto in un programma, in un appuntamento come quello di oggi, in un weekend cruciale, e qui continuo a pensare che lo sia per il campionato italiano. 800 24 00 24 è il numero verde, vedo già Gabriele da Milano e Antonio da Milano, cui tra un istante darò la parola, ma prima la cedo ad Emilio Buttaro, che è a Cesena con un ospite che poi scappa, se no. Emilio, ciao. Sì, sì, grazie Carlo, infatti è proprio così, sono in compagnia di Beppe Colucci, capitano del Cesena, già nostro gradito ospite in qualche altra circostanza. Cesena-Fiorentina 2-2, un pari acciuffato nei minuti finali, per poco il Cesena avrebbe anche potuto vincere questa partita, tutto sommato comunque un pareggio giusto, Colucci. Sì, alla fine per come si era messa la partita ci va, tutto sommato ci va anche bene, abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto alla fine, come dicevi giustamente tu, Bogdani ha avuto la palla sulla testa, un colpo di testa importante, Boruc ha fatto una parata strepitosa, quindi risultato giusto. Purtroppo le altre hanno vinto, il Brescia ieri e oggi il Lecce, quindi siamo lì come anche il Parma, quindi bisogna continuare a lavorare su questa strada come stiamo facendo, come abbiamo fatto nell'ultimo mese e mezzo, sicuramente i risultati arriveranno. Ecco, com'era l'umore nello spogliatoio dopo questo punto che, come giustamente dicevi, alla luce dei risultati delle altre squadre un po' complica la vostra classifica? Ma sicuramente non degli umori più giusti e più importanti, però dalla nostra parte sappiamo benissimo che noi ce la giocheremo con altre tre squadre, quindi non bisogna essere umorali, quindi bisogna avere sempre la stessa testa, la stessa personalità, anche la stessa voglia di lavorare, perché comunque ci sono delle volte che puoi vincere, come abbiamo fatto a Genova con la Samp, come abbiamo riacciuffato la Juve un paio di volte, quindi bisogna continuare a lavorare e i risultati arriveranno, perché comunque già da tutto questo campionato siamo un po' in credito con la fortuna e sicuramente i risultati, ripeto, non vorrei essere banale, ma i risultati, lavorando con questo spirito come facciamo durante la settimana, i risultati arriveranno. Carlo, non so se c'è qualche curiosità dallo studio per il capitano. Guarda, sono d'accordo con Colucci, sono d'accordo con il capitano. Mi sembra che il Cesena, tra le ultime sei della classifica, sette, dal Catania in giù, ma forse anche Catania compresa, è quella che gioca il calcio migliore. Anche nella partita di oggi con la Fiorentina in vantaggio 2-1 proprio non ci stava, no capitano? Credo che anche la qualità che riuscite ad esprimere, avete battuto il Milan ormai molto tempo fa, quel 2-2 con la Juve, lo ricordavi tu, giocate un buon calcio. Assolutamente, assolutamente, infatti la nostra forza è proprio questa, il mister ci inculca da tutta la settimana, ogni martedì, dal martedì alla, al sabato ci fa sempre comunque cercare di giocare palla a terra, di comunque di abbiamo delle nostre idee, delle nostre geometrie, quindi ci fa piacere anche sapere che veniamo apprezzati dagli addetti, quindi è giusto così, speriamo di portare avanti questo nostro progetto poi con la ciliegina sulla torta, sarebbe per me la salvezza, uno scudetto per me importantissimo. Brutalmente, per chiudere, a proposito di scudetto, lo vincerà il Milan dopo il derby di ieri sera? Ma a questo punto credo di sì. Grazie capitano, grazie Colucci. Al microfono di Emilio Buttaro vi faccio sentire una battuta di Guidolin oggi, grande sconfitto di giornata, poi Maurizio Antonio. A volte si impara di più da una sconfitta che da una serie di vittorie, e ci rimbocchiamo le maniche, ecco, si è fatto un po' d'ordine, insomma, diciamo così, di scudetto non ne parliamo più, cioè nessuno può parlarne ancora, così come io avevo detto più volte che mi sembrava qualcosa di fuori dalla realtà. Siamo ancora in zona Europa, molti mi criticano perché quando parlo di zona Europa penso anche all'Europa League, come se non ci penso, e come, perché per l'Udinese andare comunque in Europa è qualcosa di molto importante, perché l'Udinese, ricordiamolo, è sempre l'Udinese. Abbiamo il sogno Champions ancora aperto e dovremo fare quello che ha sempre fatto l'Udinese quest'anno, cioè partite ad alta intensità, con grande vivacità, con grande generosità, e dimenticarci questa sconfitta, questa vittoria, o meglio ricordarla per non incorrere negli stessi errori. Tutto qui, se ce la faremo il nostro sogno continua. Questo è Guidolin, quello che invece state per sentire è Antonio da Milano, un ascoltatore, 800 24 00 24, e poi Gabriele. Antonio, dica. Buonasera, signor Pienza. Dica. Dunque, molto semplicemente, una piccola analisi, poi sento il suo parere. Sì. Dall'ambito dell'Inter, secondo me, voglio usare una parola, un aggettivo, c'è una presunzione di poter giocare sempre con la stessa formazione, indipendentemente dall'avversario. Questo Mourinho l'anno scorso l'ha potuto fare perché i due esterni le facevano i terzini. E quindi l'Inter si faceva attaccare e andava in contropiede. Sì. Quest'anno, con gli esterni che fanno gli attaccanti, la presunzione di poter giocare con questa 4-2-3-1 indipendentemente dall'avversario. E questa è una presunzione, a mio avviso, gravissima, accompagnata poi nel derby dal fatto che personalmente, da interista, non capisco come si faccia mettere terzino sinistro, anche per emergenza, Zanetti, che va benissimo a centrocampo, ma sulla linea difensiva purtroppo, a mio parere, non ha niente da spendere. Antonio, io credo, non so come la vede lei, ma che più che ai numeri e ai moduli, io guardo l'atteggiamento degli uomini e dei giocatori. L'anno scorso, a prescindere, ripeto, dal modulo e dal ruolo che sta scritto sull'album delle figurine accanto al nome, c'era Eto'o che faceva il terzino, no? Quindi dipende dall'attitudine con la quale i giocatori interpretano il compito. L'anno scorso, ad esempio, a mio parere, Mourinho vinse la Champions League con la formazione iperoffensiva schierata a Londra con il Chelsea. Da lì cambiò qualcosa, no? Nell'Inter, nelle convinzioni dell'Inter. Erano tutti attaccanti, però hanno interpretato la partita da giocatori totali. Quindi, quanto a ieri sera, in effetti, secondo me la presunzione risale, torno a ripetere, anche la fase di preparazione di questo derby, che è stata molto superficiale a parer mio, con troppo ottimismo. Ci vuole anche un po' di pessimismo, come ha scritto molto correttamente ieri in prepartita Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Ci vuole un po' di pessimismo nel preparare queste grandi partite. Il Milan ce l'aveva giustificato, l'Inter forse no. Gabriele, Milano, buonasera. Buonasera, io sono tifoso interista. Sì. E avevo una domanda da porle. Prego. Quest'anno ormai è andata come è andata, lo scudetto se lo portano a casa meritatamente i cuginastri. Ma questa no, è una gufata o è un pensiero reale? No, è un pensiero reale, inutile gufarli. Ieri ci hanno steso come ci avevamo steso al derby di andata, quando tu su due derby ne perdi due in maniera vergognosa, come ieri e come all'andata. Ma all'andata vergognosa no, Gabriele, all'andata uno tiro in porta. Sì, non avete giocato bene ieri, però il Milan vi ha asfaltati. Questo è un fatto. Sì. Allora io mi chiedevo, ma questo abdicare, si può abdicare in 50.000 modi. Quello che ha scelto la società Inter quest'anno, secondo me, è il peggiore di tutti. Abbiamo cacciato un allenatore che si chiamava Benitez, poi poteva piacere, non piacere, però faceva l'allenatore di mestiere. Io ho visto giocare delle belle partite all'Inter a Palermo, altre volte, con uno schema, con dei moduli. Alcuni giocatori, alcuni calciatori della mia squadra lo hanno allontanato perché non era simpatico, non faceva le battute e forse non li faceva giocare. E forse aveva approcciato anche quello spogliatoio, anche lì stavamo parlando prima di presunzione, con un po' di presunzione, Gabriele? Forse quello sicuramente, però alla fine della fiera noi adesso siamo qui con una squadra che ci è andata bene a Monaco, perché giochiamo con la partita 100 volte, 99 volte, finisce il primo tempo 6-0 e stiamo zitti e andiamo a casa, ci è andata bene. Abbiamo un allenatore che è un ottimo allenatore, un'ottima figura a livello manageriale, ma di allenatori secondo me non ha niente, perché se tu hai un terzino di fascia, io riprendo velocissimamente la cosa che ha detto prima Antonio, se tu hai un terzino di fascia che si chiami Nagatomo o come vuoi, ma fa il terzino sinistro e c'ha 23 anni, non fai giocare Sade Zanetti a 38 anni e gli fai fare le figure che ha fatto ieri sera. Ridicolo ogni volta saltato da Pato, che ha 22 anni e è a corsa. Credo che Leonardo non sia un allenatore. E purtroppo, e chiudo, ho paura che quest'anno noi abdicheremo su tutti i campi, in tutti i modi, con, in maniera, mi permetta, abbastanza indegna per colpa di una società che non si è mossa quest'inverno, quest'estate, e che quando si è mossa ha deciso, grazie alla volontà di alcuni suoi uomini che non hanno più senso di esistere, Materazzi o il cambiasso di quest'anno che è ridicolo da proporre, cambiando un allenatore, alla fine dei conti, questo 4-2 fantasia non ci ha portato da nessuna parte. Insomma, siamo qui belli che però Gabriele, io capisco oggi la giornata della rabbia e del pessimismo, il pessimismo a posteriori era meglio averne magari un po' più prima, quindi un po' più paura di questa partita, cosa che l'Inter non ha dimostrato di avere, però non dimentichiamo nemmeno che quello che l'Inter non tantissimo tempo fa ha fatto a Monaco di Baviera, la partita che ha giocato, la personalità con cui l'ha giocata, non mi sembra sia poi così tutto indegno o tutto da buttare. Certamente è da buttare questo derby che l'Inter ha preparato male e giocato di conseguenza. È l'unica rimasta in vita nelle coppe europee. Con lo Schalke 04 secondo me servirà una partita, una doppia sfida normale, anche un po' cinica se vogliamo. Non serve un'impresa memorabile, proprio come non fu un'impresa memorabile quella dell'anno scorso con il CSKA di Mosca. È chiaro che sono due squadre, due situazioni totalmente differenti, però non mi sembra un po' eccessivo tutto questo, mi sembrano eccessive queste critiche, onestamente, che ci stanno sulla partita di ieri sera, non in valore assoluto sulla stagione dell'Inter, a parer mio. Traffico. Strade in diretta. Traffico di rientro verso le grandi città, cantieri e incidenti, la causa delle code più lunghe, 8 chilometri di coda per incidente verso Genova sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Savona. Le code di 4 chilometri sulla 15 della Cisa verso Parma tra Borgotaro e Fornovo sono per lavori. Ci sono code per lavori sulla 4 in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano, mentre i rallentamenti sempre in A4, sempre verso Milano tra Seriate e Dalmine, sono per un incidente avvenuto in precedenza. Le code a Bologna sulla 14 Adriatica in direzione Autosole tra Bologna Fiera e il ramo Casalecchio si sono accumulate dietro un mezzo in avaria. Restano le code per lavori verso Firenze sulla superstrada Firenze-Tisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli-Valdarno e resta la chiusura a Roma della statale 8 Via del Mare per un incidente che si è verificato all'altezza di Via dell'Ippodromo di Tor di Valle. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Giuseppe, poi Luca. Buonasera Giuseppe. Buonasera dottor Genta. Dica. Allora, intanto apro e chiudo una velocissima parentesi all'ascoltatore di prima. Dovrebbe ricordarsi, prima di parlare della società, di parlare male della società, che le società vanno avanti anche quando devono tener conto del connubio tra le voci dare e avere di una tabella chiamata bilancio. Giusto così, per invece di dire sempre spendete, qualcuno si dovrebbe ricordare che senza dei bilanci decenti si fa la fine di Lazio e Parma. E poi io sono interista, deluso sicuramente dalla partita, però indignato, arrabbiato, scandalizzato, no, nel senso delusione, peccato, e quindi Benitez, meno male che è stato defenestrato, io l'avrei cacciato via molto prima e non a dicembre. Ma più che altro era meglio non prenderlo se non si credeva in Benitez come allenatore, che si portava dei titoli, si portava un certo modo di vedere il calcio, si portava anche una certa presunzione derivante dal lavoro comunque fatto a Liverpool e dai risultati soprattutto in chiave europea raggiunti, e ha portato anche questo suo modo di vedere all'Inter. Io continuo a pensare che, ad esempio, poteva essere, magari potrebbe anche essere un allenatore ideale per una ricostruzione. Ad esempio, mi viene in mente della Juventus, cosa che non si verificherà, io credo mai, anche per questioni economiche. Non era allenatore giusto per allungare o per chiudere magari il ciclo di una squadra. Per questo vedo molto meglio uno come Leonardo, senza usare storie di traghetti o cose varie. Dica. No, no, infatti il discorso era questo. Benitez è stato preso perché era l'ultimo rimasto sulla piazza di un certo livello, ma è stata la quarta scelta, forse anche quinta. Quindi nel senso, è stato preso per tappare il buco quest'anno, poi dopo nessuno si aspettava che poteva distruggere una squadra, pazienza, è andata come è andata. Detto questo, io oggi mi sento un po' a mo' di Cassandra, della Cassandra dei tempi dell'antica Grecia, sì. Perché il 31 di marzo alle 16.36 su uno spazio Facebook di tifosi dell'Inter ho scritto: attenzione, che non bisogna andare a fare l'assalto all'arma bianca dal primo minuto. Quindi formazioni troppo offensive con il Milan che gioca con uomini veloci di movimento e non con la punta centrale, sì. Ibrahimovic è quello che vogliono. Attenzione che si rischia di prenderne tante, sì, e ho sperato fino all'ultimo che non fosse così. Però poi, Giuseppe, è una questione, torno a ripetere, io la capisco, le sue considerazioni sono interessanti, però torno a ripetere, è una questione di atteggiamento dei giocatori più che di modus, no? Questa squadra l'anno scorso, per il modo in cui giocava, per la mentalità che aveva, poteva anche giocare con la stessa squadra di ieri sera e interpretare la partita in maniera totalmente opposta rispetto a quanto ha fatto l'Inter ieri sera, in maniera un po' sciagurata e troppo offensiva. A parte il fatto che un giocatore come Stankovic da un derby lo tengo fuori mai, ma questi sono, ripeto, sono dettagli rispetto al quadro generale. Grazie Giuseppe, subito dopo Luca e poi chi vorrà 800 24 00 24. Però prima vado in Sicilia da Alberto Cigalini per questo derby stradominato dal Catania, per avere qualche riflesso da questo derby. Tra l'altro oggi era una giornata importante perché tornava un clima quasi normale in un derby siciliano a Catania dopo quanto successe qualche anno fa con l'ispettore Raciti. Alberto, buonasera. Buonasera a voi, partiamo proprio da qui, dalla presenza dei tifosi ospiti per la prima volta al Massimino, a 4 anni in distanza da quella notte del 2 febbraio 2007 che costò la vita all'ispettore di polizia Filippo Raciti. Erano circa 400 i tifosi del Palermo presenti nel settore ospiti, tutto tranquillo, tutto sereno sotto questo aspetto, quindi sicuramente una buona notizia in questo senso dopo l'esperienza dell'andata del Barbera, altrettanto positiva. Per quello che riguarda la partita, beh, che dire, un 4-0 spesso si commenta da solo, c'è da dire che sicuramente è stata una partita dai due volti, primo tempo molto bloccato, tattico, pochissime occasioni da rete, portieri quasi inoperosi. Nel secondo tempo un episodio che ha sbloccato la partita, un pateracchio, chiamiamolo così, fra Balzaretti e Sirigu, uno stop di petto all'indietro che ha colto fuori tempo il portiere del Palermo, ha sbloccato il risultato e ha sbilanciato la partita a favore del Catania, che ha cominciato a dare il via a una serie di folate offensive che hanno colpito ripetutamente il Palermo, il quale si diceva avesse ritrovato una certa solidità difensiva. Oggi non è stato così, il Palermo si è esposto al contropiede del Catania, che ha colpito ripetutamente più volte Bergessio, Ledesma e Pesce, gli autori degli altri tre gol, mostrando anche una preoccupante fragilità psicologica. Il Palermo che si è sfaldato in pochissimi minuti dopo il primo gol, non ha trovato più nessuna forma di reazione, diciamo, valida all'offensiva del Catania. Inutile l'ingresso di Pastore, che era stato lasciato inizialmente in panchina perché stanco dall'impegno con la nazionale argentina della scorsa settimana, e anche un po', come dire, discutibile la sostituzione dello stesso Pastore con Bacinovic, che forse era stato l'elemento migliore del Palermo fino a quel punto. Cosmi, che si dice, le voci di dentro, lo spogliatoio di Palermo, dicono che potrebbe essere a rischio di panchina perché Zamparini sarebbe particolarmente arrabbiato dopo quel che è successo. Che strano. Più che altro, Alberto, la sensazione che sia guardando il Palermo è che prima con Cosmi ci fosse un'idea magari bizzarra, magari eccessivamente offensiva, magari discutibile, quello che si vuole, però il Palermo avesse una filosofia precisa ritagliata sulle caratteristiche dei giocatori molto interessanti e molto giovani che aveva. Adesso la sensazione è che non sia né una squadra in grado di difendere, né una squadra in grado di segnare molti gol. Mi sembra una squadra che non sa di niente. In effetti effetti, anche perché questo 3-5-2 con Cassani e Balzaretti piuttosto alti, non so quanto esalti le caratteristiche dei due esterni, che sono due buoni terzini, ma i terzini sono un'altra cosa rispetto agli esterni di centrocampo in un 3-5-2. Esatto, caro Alberto. Grazie ad Alberto Cigalini per il derby di Sicilia. Luca, provincia di Monza, provincia di Monza. Torniamo invece al derby lombardo, io credo. Buonasera. No, una semplice considerazione per quello che riguarda la panchina dell'Inter. Allora, i primi 4 mesi sono stati caratterizzati da un allenatore di grande esperienza, ma che però non sapeva, a mio avviso, preparare molto bene le partite, perché probabilmente non conosceva il campionato italiano, vuoi anche perché non gli sono stati comprati i giocatori all'altezza, e vuoi anche perché la catena di infortuni ha un po' pregiudicato il suo lavoro. Sì. Da allora in poi Leonardo, allenatore con, diciamo, più personalità, ma totalmente incapace di leggere le partite. Io sono abbonato e ho visto che questo fatto si è ripetuto più volte, non solo ieri sera, perché abbiamo portato a casa partite con anche una certa dose di fortuna, vedi quella col Palermo, vedi quella col Bayern, perché in Champions probabilmente questo atteggiamento può anche senza la essere fortuna utile, non vai però, da nessuna parte, senza fortuna non vai però, da nessuna parte. A mio avviso, io ci spero tanto, se l'Inter dovesse arrivare in finale e giocare con questo tipo di atteggiamento, se l'Inter va, Luca, se l'Inter va in finale di Champions League, cosa possibile? E arriva, mettiamo alle spalle del Milan in campionato, cosa possibile? Stagione buono da buttare? Dovesse vincere ancora la Champions, facciamo stare. Memorabile perché... E poi rifacciamo i conti su tutto, no? Su Leonardo, che con questo suo modulo offensivo e questo suo... atteggiamento un po' hippie da peace and love ha dettato nuove regole per il calcio, quindi siamo ancora nel campo della rabbia, della delusione, di una stagione tutta da scrivere, mi pare, anche perché i risultati ottenuti fin qui da Leonardo mi sembrano positivi, al di là di questo derby che è la prima vera partita steccata da Leonardo in panchina. Mi sembra che i risultati che ha ottenuto fin qui Leonardo con l'Inter siano stati positivi. Non è d'accordo? Sì. No. Dopo il derby non ce la fa. Oggi dopo il derby non ce la fa. Io la capisco. Però... Assolutamente. Io ritengo che, come Mourinho, le partite al mondo non è capace di leggere nessun allenatore. E Mourinho ce n'è uno. Va bene. Ma questo vuoi sia sul piano tattico che sul piano psicologico. Probabilmente Mourinho ha un carisma, aveva una personalità tale per cui tutti seguivano il suo credo. Perfetto. Sarà anche il senso di appagamento, sarà anche probabilmente il fatto che aver vinto così tanto ha fatto scemare un po' quello che è il desiderio di aggredire la partita, però un atteggiamento come quello di ieri io sinceramente non me lo aspettavo. La partita decisiva del campionato, totalmente sbagliato l'approccio, probabilmente la formazione, che però mi sembra paradossalmente più un dettaglio che altro, perché è stato sbagliato l'approccio, la preparazione, probabilmente la motivazione. L'Inter non aveva sangue agli occhi, il Milan sì, ha dominato questa partita e l'ha vinta. Detto questo, ci sono anche gli avversari e un po' di merito al Milan di ieri sera, secondo me bisogna renderlo, perché non è stata tutta colpa dell'Inter tutta colpa dell'Inter questo 3-0, assolutamente. Chiudiamo con Vittorio da Civitavecchia, poi ci fermiamo un attimo, poi c'è già un ospite che gira qui intorno e poi ve lo ripresento, che lo conoscete bene. Vittorio. Sì, buonasera dottor Gianni. Dica. Senta, lei ha detto benissimo sulla storia e sull'atteggiamento dell'Inter. Io parlo della Lazio, diciamo, come tifoso della Lazio. Sì. Credo che alla squadra e alla dirigenza, se un po' di pessimismo ci vorrebbe. Ogni volta noi leggiamo dei titoli, per esempio prima del derby vinceremo, oppure anche adesso sulla vicenda di Napoli vinceremo. Sì. Io credo un po' di umiltà nel preparare le partite e l'approccio di dire faremo il massimo, perché ogni volta che si dice questo si perde sempre, è quasi matematico. Ora non entro negli schemi di gioco, nei moduli, però credo che questo approccio che lei diceva, che magari è mancato ieri all'Inter, farebbe bene alla Lazio, soprattutto dopo le vittorie, perché magari dopo una sconfitta si riesce anche a recuperare. Sì. Ora sarebbe bello coronare il sogno di arrivare in Champions, forse è fuggito questo sogno, però. E oggi ce l'avevi in mano sul 3-2 a suo favore a Napoli, poi è sfuggito dalle mani della Lazio questo Champions League, era lì, era solo da prendere. Non mi sembra criticabile, però nell'atteggiamento di oggi della Lazio a Napoli, né tantomeno il campionato straordinario che Rea sta facendo con la Lazio. Mi sembra che siano davvero poche le critiche che possono essere mosse al campionato di questa squadra e di questo allenatore. Ci fermiamo per il GR, vedo già mio amico Paolo Ghisoni oltre il vetro, tra poco mi raggiunge, continueremo a parlare di calcio, di derby, di questa giornata, ripeto, a mio parere decisiva per lo scudetto. A dopo. A tempo di sport. Dunque torniamo, sempre Giorgio De Luca in redazione, Pietro La Corte ora in regia. Come vi anticipavo prima, è tornato a trovarmi, perché è un weekend speciale, da Sky, mio amico Paolo Ghisoni. Ciao Paolo. Buona serata, buon pomeriggio. Ci ha appena finito di lavorare. Sì, Sky in campo, sono preparatissimo. Sei preparatissimo? Sì, ho visto tutto oggi. Hai visto tutto. Del Napoli, di Napoli-Lazio cosa mi dici? Partita stranissima, molto bella, risultato un po', adesso magari faremo imbufalire qualche amico napoletano, un po' bugiardo, perché sul 2-0 sono quelle partite che mai ti aspetti che la Lazio, che ultimamente a livello difensivo ha una certa solidità, sì, prenda due gol in un minuto, poi da lì si è aperta una partita veramente straordinaria, con degli episodi, bisogna dirlo, abbastanza favorevoli al Napoli dal punto di vista arbitrale, non tanto magari il gol non gol, che obiettivamente nel 2011 è ancora una roba, un'eresia che nel campionato italiano non ci sia il quinto uomo. Sono d'accordo. Quanto... O non sia sensore nel pallone, perché ci potrebbe stare. Guarda, dai. Sensore nel pallone è addirittura una cosa ancora più evoluta, però il quinto uomo che c'è in Champions, che è lì, che è il famoso arbitro di porta, sì, che segnala una palla entrata completamente, ma anche ieri sera abbiamo rischiato il bis, perché con Abbiati la parata in extremis, pensa a un derby deciso o non deciso da un episodio del genere. Sicuro, sicuro, derby scudetto, torno a ripetere, non so come la pensi tu e tra poco ne parliamo, che questa sia stata una partita decisiva, come ha detto Sedorf in settimana, tra il decisivuccio, decisivino, non decisivo, il Gagliani che dice si decide l'ultima giornata, gli ultimi tre punti, una banalità assoluta. A sensazione questa è stata la partita chiave per la corsa scudetto, che ha dato al Milan, torno a ripetere, la libertà di decidere e la possibilità di decidere il suo destino. Aggiungo senza Ibra, che è la cosa senza forse Ibra, più importante, perché ieri Ibra non è assolutamente mancato e ho una teoria un po' personale sul fatto che lui da un certo punto di vista sia addirittura deleterio per la squadra, perché è l'arma finale, quella a cui ti affidi nelle soluzioni estreme, quindi butti quel pallone avanti e speri che lui faccia qualcosa, che era un po' il difetto dell'Inter in chiave europea. Senza di lui invece cosa succede? Sei un po' stimolato a dire adesso la partita me la devo andare a prendere. Guarda caso Pato ieri ha fatto una partita straordinaria, sì, perché quando è al limite dell'area di rigore, quando c'è Ibra il primo pallone è sempre su Ibra, quando c'è Pato il primo pallone è su Pato, e ieri per l'Inter si è vista insomma la pericolosità insomma. Enrico da Napoli, Roberto da Monza, prossimi due ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde. Tra l'altro nel periodo non collegato, nel corso del GR, è arrivata anche una mail da Tempo di Sport. Vorrei far notare, se già non l'avete fatto, la differenza riservata dal pubblico agli allenatori Leonardo e Reia, scrive Stefano Civita. Mi sembrano però anche situazioni molto diverse quella di Reia e quella di Leonardo. Enrico, buonasera da Napoli. Buonasera a lei, Fiorgenta. No, ragionavo su quello che dicevate rispetto al fatto che il derby sia stato decisivo. Io credo che sia molto importante la partita di stasera, nel senso che se Roma dovesse battere la Juve potrebbe ancora ambire al quarto posto per la Champions, e quindi la Roma, che probabilmente è l'ostacolo più difficile che divide il Milan da questo scudetto, potrebbe essere ostica come partita ancora per il Milan. Io da napoletano, come credo il 90% dei tifosi, c'è Udinese a Roma sabato prossimo, ne faccio notare anche quella. Beh, io la prima cosa che ho fatto appena è finita la partita di oggi del Napoli sono andato a vedere il calendario, e mi è sembrato di vedere che il Milan effettivamente è padrone del proprio destino, però ha due scogli importanti, che sono la Fiorentina e la Roma. Bisogna capire un po' come vanno queste due partite. Una speranzella ce l'ho ancora da napoletano, sì, fa bene. Ma fa bene, ma ci mancherebbe, a tre punti da Milan. Torno a ripetere, secondo me il Milan a questo punto ha il suo destino in mano. È chiaro che ha degli scogli ancora, a cominciare dalla partita di Firenze di sabato prossimo. Questi ostacoli però ce l'ha anche l'Inter, che se non ricordo male viene proprio a Napoli, c'è il Napoli che affronta l'Inter in casa. eccetera eccetera. Credo che poco sia legato comunque a Juventus-Roma, di Roma-Juventus di questa sera, che mi sembra una partita abbastanza ormai marginale per il momento. Paolo, che ne pensi? Sì, sono abbastanza d'accordo. Aggiungo sul fatto di possibilità dell'Inter di rientrare molto molto marginali, ma per una serie di atteggiamenti di alcuni giocatori chiave. Ieri non c'era Lucio e vabbè, squalifica. Ho visto uno Schneider un po' diciamo rinunciatario, un Eto'o che è la terza partita dopo Udinese e Milan che buca, non so quanto volontariamente, chiaramente, perché a meno che si sia impadronito, oggi scherzando dicevamo lo spirito di Darko Panchev di Eto'o davanti alla porta, però questi tre giocatori che sono un po' la dorsale, che poi l'anno scorso ha consentito a Mourinho e all'Inter di vincere tutto, mi danno la netta sensazione di giocarsi tutto quello che hanno adesso sulla Champions e meno sul campionato. E in Champions League c'è questo ostacolo, Schalke 04, che non ti richiede, dicevo prima, cose straordinarie, ti richiede una buona normalità, mentre il Bayern Monaco ti richiedeva energie, fantasia, eccetera. Questo è un esame di grammatica tedesca. Guarda, ti applichi, studi, fai le cose normali, lo passi. Io ho visto la partita col San Paoli perché insomma dobbiamo prepararci anche al discorso tattico di martedì nel prepartita, e onestamente... A parte Raul, Farfan e poi Edu, che è entrato al posto di Gavranovic, non hanno delle grosse individualità e soprattutto a livello difensivo sono semi disastrosi sul punto di forza Metzelder. Hanno in questo momento il miglior portiere del mondo, che è Neuer, perché obiettivamente li ha tenuti a galla fino a questo momento in Champions, ma negli ottavi col Valencia, sia all'andata che soprattutto al ritorno, hanno preso una bambola tremenda. Cioè la partita strana Bayern-Inter, d'accordo, ma andatevi a vedere Valencia, Schalke 04 Valencia, e dite questa è una partita che non può mai far passare allo Schalke. Traffico, poi Roberto da Monza. Strade in diretta. Traffico di rientro in direzione delle grandi città, particolarmente intenso in Liguria verso Genova, con code a tratti sulla 10 tra Pietra Ligure e Savona e poi ancora tra Varazze e la 26 dei Trafori. Sulla 12 code a tratti a partire da Rapallo. Lungo la 14 Adriatica, sempre per il traffico, code a tratti verso Bologna tra Forlì e Imola. Ci sono code di 7 km invece sulla 15 della Cisa in direzione Parma tra Borgotaro e Fornovo a causa di lavori. In direzione Milano sulla 4 code per lavori tra Peschiera e Desenzano, code a tratti per il traffico sulla 8 Milano-Varese tra Castelletto Ticino e Legnano. Lavori e code di 5 km sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Pontedera Ovest e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Traffico molto intenso e rallentato anche sulle autostrade in ingresso a Roma. In entrata a Palermo si formano code per il traffico sia sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo che sulla 19 Palermo-Catania. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Essere all'avanguardia significa cercare di migliorarsi, sempre. Audi presenta la nuova Audi A6, la berlina business di maggior successo al mondo. Un concentrato di tecnologia ed innovazione per una dinamica di guida e comfort senza pari. Grazie alla costruzione ibrida leggera con acciaio e alluminio, Audi si è superata ancora una volta. Il risultato è una carrozzeria più leggera rispetto al modello precedente, con tutta la sicurezza che Audi sa garantire. Grazie ai principi della costruzione leggera, Audi A6 berlina offre un design più dinamico e una maggiore efficienza per consumi ridotti sino al 21% rispetto al modello precedente. Audi A6 berlina è disponibile in 5 motorizzazioni, 2 a benzina e 3 TDI. Maggiori informazioni su audi.it. A tempo di sport. Torniamo insieme al tuo vicino a me, Paolo Ghisoni, Roberto da Monza, 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Siamo qui fino alle 19. Roberto, dica, buonasera. Sì, buonasera. No, non mi ritengo un esperto di calcio, volevo solo dire che il target dell'Inter probabilmente quest'anno, per quanto riguarda me, poteva essere solo esclusivamente vincere il campionato del mondo per club, perché non è una cosa che giochi tutti i giorni. Poi ci sta che l'Inter non vinca sempre, mi sarebbe piaciuto che uscisse con una partita diversa come atteggiamento rispetto a quella di ieri sera. Sono d'accordo su tante cose che avete detto riguardo Stankovic, che lo farei giocare sempre in un derby, probabilmente anche un Materazzi di 5 anni fa, non quello attuale. Aggiungerei che anche Thiago Motta, come atteggiamento mi è sembrato un po' così rinunciatario ieri. Però insomma ci sta che vincano anche un po' che gli altri. Sono sì, vale tutto, mi sembrano tutti dettagli. Io torno a ripetere, non so come la pensi Paolo, la chiave di questa partita, di questo dominio milanista è stata nella preparazione, perché probabilmente il Milan aveva più paura e ha utilizzato questa paura per preparare come deve essere preparata una grande partita. Se insomma, se non hai un, dicevo prima, un po' di pessimismo non riesci ad arrivare nel modo giusto ad una grande partita come questa. Sì, sentivo prima che hai citato effettivamente Mario Sconcerti. Si è preparato meglio, ha avuto la possibilità anche perché molti giocatori, come dicevi giustamente prima, sono rimasti a Milanello. Queste partite obiettivamente nel creare, nel plasmare il gruppo hanno una valenza particolare e oggettivamente a me è parso anche dall'ingresso in campo, oggi ne parlavamo anche con Federico Buffa, un Milan molto voglioso, ma proprio dal momento in cui hanno messo il piede in campo per il riscaldamento, cioè sono tutti entrati quasi a mordere il terreno quelli del Milan e l'Inter. C'è stata questa morbidi, scenetta morbida anche di Maicon che entra e magari il terreno nuovo lo fa scivolare, sono magari delle inezie, però la sensazione evidente è stato che il centrocampo dell'Inter, soprattutto quando aveva possesso palla del Milan, concedesse tanto. Invece di contro spesso Thiago Motta sempre ingabbiato, palla Eto'o, il primo a rientrare Boateng, se ci fai caso sull'espulsione di Chivu è successo quello, cioè pallone sradicato da Boateng a Eto'o, ripartono, pallone in profondità per Pato dato da Boateng. Sono segnali, sono cose che obiettivamente magari riguardando la partita, perché te la devi riguardare, primo acchito non ne ricavi delle impressioni valide, poi riguardandola ti rendi conto che obiettivamente ci sono queste situazioni abbastanza evidenti. Luca, provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Conterraneo nostro. Volevo fare semplicemente due velocissime considerazioni. La prima è sull'ambiente Milan, che si stupisce di questo Leonardo che viene all'Inter. E a me sembra che sia un po' di anni che loro peschino tra anche delle nostre stelle, tipo Ronaldo, sono venuti a comprare Ibrahimovic. Quindi credo che ci possa stare che anche un allenatore che ha allenato il Milan possa venire da noi. La seconda ampiamente. E la seconda è sul derby di ieri sera. Io mi ricordo due settimane fa lei nella sua trasmissione aveva detto che era fondamentale il fatto che Allegri avrebbe avuto tutto il tempo di preparare questa partita con tutti gli elementi. Leonardo se ne è visti partire adesso, non so il numero, tantissimi. Ed è difficile trasmettere, secondo me, nel giro di due giorni a persone che hanno fatto anche un viaggio intercontinentale quel sangue negli occhi che sinceramente aveva il Milan ieri sera. E poi comunque sono stati episodi, cioè dopo 47 secondi Pato che becca questo gol, noi che ci sbagliamo perché ci sta, l'Inter si sbaglia l'1-1 e poi l'espulsione dove dopo c'è stato il tracollo, ma secondo me il risultato è eccessivo rispetto ai valori in campo poi. Sì, anche se continuo a dire qualche merito al Milan, bisogna pur darlo perché ha giocato una grande partita, al di là di tutti gli errori che può aver commesso l'Inter e che può aver commesso Leonardo, al di là di tutte le attenuanti, qualche attenuante che ci può stare come questa di una settimana bizzarra di preparazione di una partita così importante, esonerato Marino. Me l'aspettavo. Bastava guardare. Tra un po' esonerato anche Leonardi a Parma. Sì, nel senso che a fine anno se ne va. Bastava guardare l'uscita dallo stadio di Ghirardi, presidente del Parma, subito dopo il gol preso dal Bari, per capire che la notizia sarebbe arrivata a strettissimo giro di posta. Invece saluto una collega bravissima e bellissima di Milan Channel, Laura Esposto. Ciao Laura, buongiorno. Ciao, buonasera, buon pomeriggio. Si continua a dire che l'Inter ha sbagliato tutto, però possiamo anche dire che il Milan ha fatto tutto giusto? Sì, no, infatti vi stavo ascoltando proprio da quando siete rientrati dalla pubblicità. E sì, no, devo dire che secondo me il Milan ha fatto tutto molto bene. Poi credo che chiaramente quando una squadra vince, sicuramente sono meriti di chi vince, ma anche dei meriti di chi ha fatto vincere l'altra squadra, ovviamente, perché insomma, al di là degli episodi arbitrali che comunque secondo me ci sono stati un po' da una parte e dall'altra, un po' dubbi, e alla fine a me piace dire che bisogna dimostrare sul campo quello sa fare, al di là degli errori arbitrali, no? Ma errori, episodi, non so quanti sia stato di sbagliato. Probabilmente l'arbitro non ha inciso, secondo me, nella partita di ieri sera, anche se magari qualche interista la pensa in maniera differente. Secondo me ha inciso davvero zero l'arbitraggio di ieri sera, anche pur non splendido, però non è stato è stato un non fattore nella partita di ieri. Paolo, sì, che anche dici? Perché Rizzoli, secondo me, è abbastanza, voglio dire, bravo come arbitro, quindi è molto, diciamo che non innervosisce i giocatori. Sì, non so come la pensa invece un campionissimo come Igor Cassina, ferito dalla sua Inter. Ciao Igor. Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Non venirmi a dire che l'arbitro ha inciso nel derby di ieri sera, perché non ti credo. No, allora premetto e apprezzate la mia sincerità che purtroppo ero ad un'iniziativa di beneficenza e non sono riuscito ad assistere a vedere la partita. Non ti sei perso molto da tifoso. Però forse è stato meglio così, ho sofferto meno, anche se ogni 3x2 mi dicevano che il Milan continuava a segnare. Arrivava un gol. Senti, ma Leonardo ti piace da allenatore dell'Inter? Perché oggi è un argomento del contendere. Fino a ieri era quasi la bandiera, la nuova bandiera dei tifosi dell'Inter. Oggi meno a sentire gli umori. Come ho sempre detto, a me piace molto Leonardo, perché ho avuto anche la fortuna di conoscerlo prima che arrivasse all'Inter, e per quello che mi ha trasmesso è una bella persona che ha un gran cuore, molto sensibile, e credo che se l'Inter ha fatto bene in questo ultimo periodo è indubbiamente grazie a lui, perché credo che i giocatori abbiano capito con chi hanno a che fare, con una persona che veramente crede in quello che fa e ci mette anima, cuore, corpo e quant'altro. Ovviamente sappiamo che il calcio è sempre sui riflettori di tutti, e se oggi vinci va bene, se perdi già non va più bene, qualcosa da cambiare. Credo che purtroppo nel calcio tante siano le partite dove magari si deve vincere facilmente, come con il Lecce abbiamo fatto fatica, però comunque abbiamo segnato, è andato bene così. Il derby è una partita totalmente forse diversa come approccio emotivo e psicologico dei giocatori, e cosa si può dire? Io non faccio assolutamente una critica a Leonardo, perché appunto credo che in questo periodo ha fatto del suo per cercare di mettere l'Inter lì vicino al Milan, e comunque siamo a 5 punti, quindi mancano ancora 7 partite. A 5 punti è in Champions League, voglio dire. Tu, Laura, ti senti tradita da Leonardo come molti tifosi del Milan? Ma guarda, io sono un po' nella via di mezzo, nel senso che mi rendo conto sia dal punto di vista del tifoso e sia anche, non so se avete sentito, ma sicuramente avete sentito le dichiarazioni sia di Adriano Galliani che di Silvio Berlusconi, che comunque loro, avendo lavorato tanto tempo a fianco dell'uomo Leonardo e quindi avendolo avuto vicino, non possono che augurargli buona fortuna nella sua nuova avventura, perché comunque io credo che Leonardo sia una bellissima persona. E quindi l'unica cosa che mi rendo anche conto, che da un punto di vista strettamente di tifoso, abituati insomma a avere bandiere come Franco Baresi, come Paolo Maldini, come lo stesso Carlo Ancelotti, che non farebbero mai un passaggio di questo tipo, di Leonardo ci si aspettava, da Leonardo ci si aspettava lo stesso, magari questo io. Ma sei sicura che Ancelotti non andrebbe all'Inter? Siamo così sicuri che Ancelotti? No, ma detto al questo 100%. Ma io col 100%. Io te lo potrei dare al 100%. Dici, Paolo Ghisoni, io so che Moratti l'ha cercato, perché nel momento in cui c'è stato un giro, ma me l'ha detto in un'intervista recentemente per lo speciale Viareggio, nel momento in cui una società come l'Inter si rimette in discussione per trovare un allenatore, si fa un giro, un panoramico, e il nome di Ancelotti era nei primi 5, quindi non andrebbe. Ma un conto è chiedere, un conto è ottenere, cioè. Sì, questo è la palissiana. Puoi chiedere a tutti di venire allenato in una squadra. Sì, però, Ancelotti ha un modo molto personale di portare avanti queste situazioni, nel senso. No, ma non sto dicendo, Laura, con l'Inter. Credo che possa andare solo ad allenare la Roma, Carlo Ancelotti. Assolutamente, però il Real Madrid il contrattino l'avevamo già firmato, insomma, col Chelsea il contratto è arrivato. Ma è diverso, Leonardo, Leonardo si è permesso di esporre la propria la propria opinione su Berlusconi in maniera abbastanza palese. Ancelotti è un altro invece molto più molto, ma non sto offendendolo, non devi prendere assolutamente le difese, sto dicendo che Ancelotti è più un uomo di mondo, sa come portare a casa le cose che bene o male sono importanti. Non ho capito, scusami, no, diceva che Leonardo ha preso certe posizioni che per Berlusconi erano intollerabili, sappiamo bene com'è andata. Ancelotti ha un modo differente di approcciarsi. Laura, ti ricordi dopo un derby perso da tifosa milanista, te lo ricordi sicuramente, Berlusconi arriva negli spogliatoi e dice: da questa sera tutti gli allenatori del Milan dovranno giocare necessariamente con due punte, perché quell'albero di Natale che era costata ad Ancelotti la serata gli era rimasto un po' indigesto. Da lì in avanti Ancelotti... Scusami, io non discuto quanto un presidente possa interferire nelle decisioni sugli allenatori. Vediamo Zamparini che interferisce su tutti gli allenatori, quindi mi sembra una cosa abbastanza anche normale che un presidente possa dire quello che pensa. Ma al di là di questo, quello che volevo dire io a proposito di Ancelotti è che credo che da tifoso rossonero, veramente tanto tifoso rossonero, non farebbe mai questa cosa, poi vedremo. Invece Leonardo, sì, tifoso, però sai, diverso, brasiliano, prima lui non voleva neanche allenare, Gagliani gli ha consigliato di allenare, poi ci sono state queste frizioni, appunto, come dicevi tu, probabilmente, sicuramente, col presidente Silvio Berlusconi, lui aveva detto che non avrebbe più allenato, invece si è trovato che gli piaceva probabilmente fare l'allenatore, sì. Ha avuto questa offerta dal presidente Moratti, e ci sta anche che uno vuol continuare, certo, questo tipo di avventura e scelga l'Inter, siamo cugini, quindi insomma dai. Quindi concediamo. Laura, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, un bacio. Laura Esposto, un bacio, me lo prendo molto volentieri. E chiedo ancora a Igor Cassina, con cui che si è ritirato, medaglia d'oro ad Atene 2004, ero lì, l'ho visto e ho esultato tantissimo. Devo chiedere a Igor, qualche settimana fa una mia brava collega lo ha intervistato quando è uscita la decisione del suo ritiro dall'attività agonistica, ha cercato quasi di supplicarlo, di convincerlo, ma davvero, non torni indietro? Non vai a Londra? In un'ultima intervista prima del derby mi hanno detto cosa poteva far sì di cambiare la mia idea. Che se può fare? Dimmelo. Se Inter vince il derby e vince tutto quest'anno, magari ci ripenso. E probabilmente i giocatori hanno letto le mie interviste e hanno sentito che ero convinto. Hanno detto, vabbè, Igor, magari a Londra ci vai per un altro motivo. Sì. Fine maggio col e ti innamori. Wembley. Dopo quella col Chelsea. Magari hai visto mai, devi andare a Londra a fine maggio a Wembley e dici: ma che bel posto, quasi ci mi torno fermo. A fare l'Olimpiade. No. Ma credo che comunque a Londra andrò sicuramente, magari in un'altra veste come commentatore o per andarci andrò, quindi poi vi aggiornerò se ci saranno nuovi sviluppi. Sì, ma possiamo dire in caso di vittoria Champions League magari qualcosa cambia? Fare questo fioretto? Ma no. Io avevo detto che il mio fioretto era, lo puntavo molto sul derby, quindi sono una persona onesta, trasparente, e quindi come faccio adesso a dire che vado avanti? Magari avevi fiutato tu l'aria invece, eh? No, vabbè, diciamo che io comunque, ripeto, tornando al discorso di prima, probabilmente è vero, concordo con quello che ha detto Laura sull'approccio diverso che può avere magari Leonardo nell'aver fatto diverse scelte, però ripeto, io sono fiducioso, ripeto, mancano ancora diverse partite, quindi 5 punti sono tra virgolette recuperabili, quindi siamo positivi, bisogna essere sempre positivi, lo sport insegna questo e quindi ce la faremo. Grazie Igor, un abbraccio. Grazie a voi, buona serata. Posso aggiungere solo una cosa sul fatto che il Milan ha concesso a Leonardo l'opportunità di allenare? Non è andata proprio così, nel senso, le mie informazioni sono il contrario, insomma gli è stato chiesto di allenare più di una volta, Leo era poco convinto e alla fine poi ha accettato perché insomma c'era l'episodio, il precedente di Capello che allenò la primavera, poi andò a fare più un discorso manageriale, poi divenne l'allenatore che stiamo apprezzando tutti. Leo più o meno aveva lo stesso pedigree e la società puntò molto sul fatto che era un uomo Milan, che conosceva benissimo tutte le mura di Milanello, ma sul fatto che gli è stata concessa l'opportunità di allenare non sarei molto d'accordo. Gli è stato chiesto più volte di allenare, alla fine lui ha accettato, poi alla fine è stato di fatto mandato via, no? O comunque è stato messo in condizioni di andare via. Io di Ancelotti prima volevo semplicemente dire che è un approccio diverso, cioè Ancelotti dopo quella partita famosa del Diktat rimase al Milan ancora 3-4 anni, perché lui sapeva benissimo come gestire queste situazioni, però quando ha avuto l'occasione di andare da un'altra parte, vedi Real Madrid con contratto già firmato, barra Chelsea, accordandosi a gennaio, quando tutti dicevano no, no, no, rimane qua, lui l'ha fatto, ma va benissimo così, cioè pienamente lecito. Sì, e detto questo, Leonardo, se vuol fare allenatore, è un professionista, lo chiama l'Inter, fa benissimo ad andare all'Inter, a mio parere, nello sport, se poi vogliamo metterci dentro altre cose di tifo, di passione, facciamo pure, però dal punto di vista professionistico fa benone. Ci fermiamo, 800 24 00 24, numero verde. Intanto, guarda che strano, Zamparini pensa seriamente all'esonero di Serse Cosmi e al ritorno, al richiamo di Delio Rossi. Strano, che eh? non torna. Poi ne parliamo. Efficienza energetica con Schneider Electric, le risposte degli esperti su efficienza, risparmio energetico e riduzione dei consumi. Vorrei ridurre i consumi energetici della mia azienda. Da dove comincio? Come faccio a misurare il risparmio energetico? Ho sentito parlare di efficienza energetica attiva. Cos'è? È vero che l'automazione consente di risparmiare energia a parità di prestazioni? Vai su radio24.it, entra nella sezione Efficienza energetica con Schneider Electric e mandaci la tua domanda. Svoltare a destra. No, a sinistra. Fermarsi e chiedere indicazioni. Cerchi la strada giusta per gestire i tuoi crediti? Scegli le soluzioni Assicom. Con oltre 20 anni di esperienza, Assicom ti offre soluzioni complete per tutelare la liquidità aziendale, informazioni commerciali e recupero crediti in Italia e all'estero. Assicom.com. Oggi interroghiamo Rossi. Su, mi lasci senza parole. E certo, prof. Con Poste Mobile le chiacchiere stanno a zero. E gli SMS? Anche. Passa a Poste Mobile e attiva la nuova offerta a zero centesimi. Con i nuovi piani 30 e 60 e lode e le opzioni Poste Mobile, parli ed invia SMS a zero centesimi. Informazioni su costi e consumi settimanali al numero 160 o su postemobile.it. Rossi, 30, anzi, 60 e lode. Poste Italiane. Per essere ancora più aerodinamica, chiude automaticamente la griglia anteriore, lasciandoti senza fiato. Nuova Ford Focus con Active Grille Shutter. Ad aprile in tutti gli showroom Ford, anche sabato 9 e domenica 10. Con Visa puoi vincere ogni giorno. Usa Visa per tutti i tuoi acquisti e gioca le ricevute su visaitalia.com/goldenspace. Puoi vincere ogni giorno a tua scelta una gift card a 1000 euro o un weekend a Londra. E appena ti registri sul sito, puoi vincere subito una gift card da 250 euro. Regolamento su visaitalia.com/goldenspace. Scade il 30 giugno. Montepremi 133.750 euro. Visa, sponsor mondiale dei Giochi Olimpici. A tempo di sport. Ecco che torniamo insieme, sempre con noi Paolo Ghisoni, con cui mi ero attardato in chiacchiere non rendendomi conto nemmeno della sigla. Pensate sono un po'. Dolci, almeno fossero i galani, no? Ma chiacchiere. Chiacchiere distintivi. 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi 349 238 6666. Tanti messaggi. Paolo da Prato: quindi avete già deciso che il Milan è campione d'Italia? Io vi dico attenzione, il campionato è tutto da giocare. E il Milan, vedrete, perderà a Firenze. Questa è la grande speranza dell'Inter, ma anche del Napoli, io credo. Beh, a Firenze non è semplice, mentre l'Inter avrà in casa il Chievo, anche se dopo la partita di Champions League a questo punto conta molto di più ed è inutile far finta di nulla. Il Napoli va a Bologna, sul campo invece una squadra già salva. L'atteggiamento di Cassano ieri, c'è qualcuno che scriveva: ma non lo multereste? Ma come no? Multa con disonore. Io su Cassano ho un'opinione, dopo aver sentito la conferenza stampa di presentazione, se sono vere le parole, perché purtroppo le ho viste riportate, ma se sapevo che, insomma, insultando Garrone sei arrivato prima al Milan, avrei fatto prima, da lì vale tutto. Poi no, io in valore assoluto darei pesante multa a ogni giocatore che in maniera totalmente idiota si leva la maglietta in qualunque partita e per qualunque ragione, perché è un po' troppo estremista, troppo scemo. Ma no, è troppo scemo, Paolo, perché è automatica l'ammonizione, no? È scritto, è la più cercata delle ammonizioni. Poi magari qualcuno lo fa per beccarsi apposta al giallo, poi ma io su allora ti contesto sul 3-0, sul 3-0, anche sull'1-0, la maglietta, no, via nel col senso cartellino non, giallo. Sai, lo sai meglio di me, o voglio dire, il sangue alla testa ogni tanto ti può andare, sì. Sull'1-0 sblocchi il derby all'88esimo, ci sta, ma sì, sul 3-0 una partita chiusa in cui sei 11 contro 10, vengo dalla tua parte. Domenico, provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io vorrei dire una cosa inusuale riguardo la Juve. Quella che vuole. Secondo me la Juve ha possibilità di andare in Champions, c'ha ragione Dell'Iri, perché con i risultati che abbiamo visto questa domenica, secondo me è possibile, cioè io ci credo. Sì. Mi sbaglio? Ma secondo me sì, perché ma basta banalmente leggere la classifica che oggi dice Juventus 45 punti e la zona Champions mi sembra un po' troppo lontana, 11 punti sopra per essere raggiunta, quindi mi sembra molto difficile, insomma la Juventus deve cominciare a vincere tutte le partite che restano e questo non mi sembra già semplice, e poi devono succedere un sacco di cose. Certamente, se vogliamo dire, oggi la giornata con l'Udinese che ha perso e la Lazio che ha perso può essere un turno favorevole a condizione di vincere a Roma, ma ancora tutto da vedere. E preliminare di Champions, non Champions, perché quelle tre davanti. Vabbè, no, quelli non becchi più. No, per la Juventus ricominciare dal preliminare, vista la stagione di quest'anno, poi non lo so quanto può essere produttivo in prospettiva l'anno prossimo. Magari... Ma è tutto da buttare, secondo te? Come si fa a dirlo? Lì, obiettivamente, anche Del Neri ha avuto delle situazioni da gestire molto strane, però prima di Natale la Juventus ha due minuti dalla fine con Quagliarella sano, sì, esatto, con il vantaggio e con quel gol di Fernandes, obiettivamente era una squadra che tutti ritenevano potesse ambire alla Champions. Io per primo, anche se ho sempre messo una condizione, vediamo come va a gennaio, perché sappiamo come le squadre del Neri a gennaio attraversino periodi molto difficili, questo è stato anche più difficile del previsto, del preventivabile, dunque io ho detto se a fine gennaio la Juventus sarà ancora in queste condizioni, perché no, può correre per lo scudetto. Detto questo, mi pare che non sia tutto da buttare, perché ci sono giocatori in quest'ultima campagna acquisti, peraltro molto costosa, che possono essere comunque funzionali alla costruzione di una squadra competitiva, no? Sono tanti, però 12 giocatori, 12-13 sui quali devi fare una cernita, perché hanno molti prestiti, tra l'altro riscatti, fermo restando che uno come Matri a quel punto lì lo devi per forza riscattare. Poi Aquilani che fai? Si è dimostrato una pedina imprescindibile da Juventus, punto di domanda, io onestamente non saprei rispondere. A livello difensivo c'è qualcosa da sistemare? Fino a un certo punto Bonucci e Chiellini sembravano l'ira di Dio, poi adesso addirittura c'è qualcuno che dice non possono circolare in nazionale. Queste stagioni, e lo dico da comunque diciamo ex tifoso, sì, mi sono capitate con la mia squadra e onestamente ti chiedevi sempre da dove ricominciare, ma in fila, 1, 2, 3, 7, lo stesso anno dell'Inter dei record. Il problema, Paolo, è che se butti via tutto non ricominci mai. No, è vero, ma l'anno dei record di Trapattoni, ne parlavamo con Bergomi, cioè l'Inter cambia 5 giocatori e Trapattoni gioca la prima partita, arrivano Berti, Matteus, Bianchi, insomma Breme, gioca la prima partita di Coppa Italia, perde in casa con la Fiorentina a Piacenza, Trapattoni se non lo salvano, Bergomi, i soliti senatori che dicono no, andiamo avanti con questo, l'anno dello scudetto dei record Trapattoni va a casa, e questo è proprio un punto di partenza per un non ragionamento in assoluto. Franco Trento, buongiorno, buonasera, quasi buonasera. Buonanotte, dica. Niente, una considerazione sul Milan, io sono milanista e parlando con altri tifosi tutti temevano la partita di ieri sera. Io ero convinto che il Milan vincesse per un motivo semplice, che ieri sera era la prima partita della stagione dove il Milan trovava una squadra che doveva fare la partita. Il Milan ha sempre giocato quest'anno contro squadre che aspettavano e ripartivano, secondo me. E l'altra considerazione è che Pato gioca bene solamente quando non c'è Ibrahimovic. Io ero a San Siro a vedere Milan-Bari e quando Ibrahimovic è stato espulso Pato ha iniziato a correre, prima era un palo, era immobile. Io non condivido le discussioni su Pato, secondo me rimane un campione un fuoriclasse potenziale assoluto, ma con un potenziale già espresso, cioè è un giocatore mostruoso. Se poi non vada d'accordo con Ibrahimovic, se non si stiano simpatici, però questo è curioso, poi magari c'è la parentesi spagnola, ce lo può confermare Filippo, sì. Maria Ricci, io l'anno scorso quando il Barcellona ha preso Ibrahimovic, le prime due o tre partite, un po' di ricerche, si pensava fosse la ciliegina sulla torta, sì, no? Sì. Nell'ingranaggio perfetto. Guardiamo un anche po' di partite, giocatore che mancava, fisico, pallone in mezzo. E io notavo e ho notato la stessa cosa del Milan con Pato Ibrahimovic, cioè Ibrahimovic faceva 140 movimenti a partita, palloni recapitatogli 2-1, cioè, veramente una cosa imbarazzante, tanto è che con Gianluca Vialli ci permettiamo di dire, ma forse Ibrahimovic, ma già a settembre, no, quando l'Inter giocò la prima partita col Barcellona, forse Ibrahimovic qualcosina di imperfetto nel meccanismo perfetto del Barcellona può avere. E adesso la situazione riguarda Pato con Ibrahimovic, che in un ambiente del genere però si fa sentire. Sì, sicuro. Dopo un'annata, questa. Eccolo qui, evocato Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Stavamo discutendo della parentesi di Ibra al Barça, dove veniva bellamente ignorato, no? Da tutti gli altri. Sì, però attenzione che adesso è in difficoltà anche David Villa, allora qui che ha caratteristiche diverse. Giocatore forse anche più completo per certi versi, però insomma non sempre si ritrova, perché questo è un meccanismo molto complicato quello del Barcellona, soprattutto perché poi con Messi che fa il centravanti o il falso centravanti, complica i movimenti anche degli altri compagni di reparto. Pedro si è adattato molto bene, no? è più un esterno e sa quello che deve fare, però Villa non è il Villa letale del Valencia, dove giocava una posizione più accentrata ed era lui il riferimento finale. Sì. Quindi è abbastanza interessante. Ovviamente parliamo di perfezione, perché questa è una squadra che vince quasi tutte le partite, quindi non è che sta andando male, però c'è un piccolo problema anche in questo caso, non grande come quello di Ibra. Arriviamo a bomba, giorni complicati per te, mio caro. Fine di un'epoca, mucca poi in casa dopo 9 anni, oggi il tuo articolo sulla Gazzetta dello Sport. Fine di un'epoca è tanto, mucca poi in casa dopo 9 anni invece è statistica. Adesso c'è da ridere. Però tu dici periodo complicato, in realtà con questo ci siamo tolti di mezzo uno dei classici, cioè almeno gli abbiamo tolto la caffeina, perché il classico del campionato ormai vale esatto. Poco, nel senso che da con 8 punti di distacco non sono mai stati recuperati nella storia della Liga in 8 giornate, le ultime 8 giornate. Quindi è strategia. Sì, che difficilmente succederà. Adesso bisogna vedere cosa succede in Champions, perché ci sono le due partite di Champions, c'è una gara di campionato e poi si arriverà a questo classico, che in realtà è il preludio al primo titolo della stagione, che è la finale di Coppa del Re, che sarà il 20, sempre tra Real e Barcellona. Allora lì si vedrà. Ieri io ho visto un Mourinho comunque abbastanza tranquillo, considerando quello che era successo. Il problema è che oggi le critiche a Mourinho vanno sul piano tattico e secondo me colgono nel segno, perché ieri le decisioni di Mourinho, al di là che Real Madrid è stato sfortunatissimo, gli hanno preso 3 gol sulla linea di porta e ha fatto un assedio finale enorme, però non si capisce perché ha dovuto giocare per 90 minuti con Diarra e Khedira, che sono due taglialegna, contro una squadra che era tutta chiusa in difesa. Sì, gli girava così. Ma io onestamente, Filippo, confermamelo, secondo me lui è contento di aver perso l'imbattibilità casalinga con questa squadra, perché l'anno scorso in casa contro il Siena l'Inter stava perdendo 3-2 sino a 3 minuti dalla fine, arriva, vince in maniera incredibile un gol di Samuel al 95esimo, vince la partita. Gli fanno questa domanda, a rischio l'imbattibilità, lui dice sì, se perdo con Siena mi piace, cioè piuttosto che perdere magari il classico con poi il Barça al Santiago Bernabéu, ci può stare nel suo ego che magari perdi con una squadra non di primissima fascia e lo accetti. Sì, è un male minore, però beh, certo c'è da dire che la cosa più divertente di tutto questo è l'ironia del fatto che ha perso contro lo Sporting di Preciado, che è stato il suo primo, diciamo, il primo grande scontro che ha avuto in Liga, no? Lui accusa Preciado di aver giocato con le riserve a Barcellona, dove peraltro lo Sporting ha perso 1-0, non 6-0, e dopodiché lo Sporting ha anche pareggiato in casa col Barcellona, quindi fermandolo, facendogli un regalo, vanno a giocare lì, grandi polemiche, no? Preciado gli dà della canaglia, poi gli tira anche una bottiglietta d'acqua, insomma, e poi guarda con chi deve andare a perdere, perde con lo Sporting. Però ci ha messo la faccia, l'ho visto alla fine, ho aspettato fino in fondo. Ragazzi, un attimo solo che ho il traffico, sono in ritardo, state lì tutti e due, Paolo Ghisoni qui e Filippo Marerici lì a Madrid, traffico. Strade in diretta. Traffico di rientro in direzione delle città, in Liguria verso Genova, code sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Savona e poi ancora tra Varazze e la 26 dei Trafori, sulla 12 code a tratti a partire da Chiavari, sulla 14 Adriatica code a tratti verso Bologna tra Forlì e Imola. Ci sono code di 8 km sulla 15 della Cisa in direzione Parma tra Borgotar e Fornovo a causa di lavori, in direzione Milano sulla 4 code di 9 km sempre per lavori tra Somma Campagna e Desenzano, in carreggiato opposta code a tratti tra Brescia Est e Sirmione. Code a tratti per il traffico poi sulla 8 Milano-Varese tra Castelletto Ticino e Legnano e sulla 7 code tra Binasco e la barriera di Milano Ovest. Disagi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, ci sono dei lavori e delle code di 9 km tra Lavoria e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Il traffico intenso è rallentato anche su tutte le autostrade in ingresso a Roma. In entrata Palermo ci sono code sia sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo che sulla 19 Palermo-Catania. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento mezz'ora. A tempo di sport. Torniamo con Filippo Marerici dalla Spagna e Paolo Ghisoni qui. Di cosa stavamo parlando, ragazzi? Mourinho. Mourinho? Ah già, strano, stavamo parlando di Mourinho. Una cosa nuova. Io invece vorrei parlare con voi anche di Guardiola e della città del sorriso che è Barcellona, che in questa settimana sorride un po' di meno sul fronte cestistico, perché il Barça padrone di casa non giocherà la Final Four di casa difendendo quindi il titolo conquistato l'anno scorso, e questa è una bella botta. E poi c'è Guardiola, ma che fa Guardiola? Sì. Ma come? Tempo finito? Ma lui ieri ovviamente ha detto, se l'è presa un po' col giornalista della Rai, che qua accusano di avergli un po' rubato un'intervista con domanda e risposta a collarino e telecamera, quindi tanto rubato a me non mi sembra, insomma. Poi il Barcellona ha cercato di buttare in quella direzione lì, però voglio dire, sì, il giornalista, il collega era andato lì per parlare del centenario del Brescia, però se poi gli fanno delle altre domande, se uno dice no, guarda. E poi il collarino, Filippo, cioè non è un giornale, il collarino, quello che dici appunto, anzi, no, quello, anzi, facciamo così, Filippo, facciamo così. Sto bene qua, ma credo che il mio periodo nella Barcellona sta finendo. Uno quando sta in una società come questa molto tempo non si può rimanere. Io sono già, sarà il mio finito questo terzo anno, un anno in più saranno 4 anni, e 4 anni è una società grande, deve tenere molto coraggio, perché i giocatori si stancano di uno dei giocatori, la stampa si stanca di uno dei giornalisti, vedere le stesse care, le stesse domande, le stesse cose. Alla fine uno deve sapere quando arriva un momento. Ancora io non l'ho, la stessa maniera che l'ho capito come era giocatore, che guarda, ho finito, devo andare. Vabbè che verba volant, però fino a un certo punto volant. No, firmato, guarda, Alex Ferguson. È un messaggio preciso a Sandro Rosella. E punto. Perché allora lui non gli, nessuno gli ha messo la pistola alla tempia, ha voluto mandare un messaggio in una situazione molto particolare, dove appunto poi aveva anche una scappatoia dicendo ah sì, il giornalista in realtà è stato scorretto, gli abbiamo detto che non lo poteva usare, quando in realtà vuol dire se tu lo fai e punto. E voleva mandare un messaggio, guarda, perché a un certo punto c'è anche un'altra frase molto interessante, quando lui parla, dice tu resti al club per il club, dice dipende dalle persone, no? Parla di persone. E lui quello stesso giorno, siccome l'altro giorno Rosella un po' perso la testa, ha detto che la finale di Coppa del Re vinceranno 5-0 per non perdere l'abitudine, poi il giorno dopo il presidente Guardiola ha detto beh, io me lo sarei evitato, dicendo non conosco molto bene Rosella, ha detto, dice mi sembra una persona sensata e via dicendo. Lì è chiaramente, c'è chiaramente un problema, ricordiamo che l'anno scorso Guardiola per firmare il suo contratto ci ha messo 15 giorni quando è cambiato il presidente, cosa che di solito invece era diciamo il punto numero uno nell'agenda teoricamente. E lì c'è da vedere, insomma, ecco, sta, è un lungo addio, c'è c'è qualcosa che non torna nel rapporto tra Guardiola e Rosell, nulla di grave, poi si vince, quindi questo aiuta e va tutto bene, però insomma la situazione è in movimento, il problema è come si arriverà a fine 2012, perché certo. Lui ha detto che vuole fare un'altra stagione, vediamo, insomma siamo qui e però questa non è casuale tutta questa movida che c'è stata. Non avrebbe senso se lo fosse, no Paolo? Troppo intelligente per essere casuale questa situazione. Esatto. Guardiola bisogna un po' conoscerlo. Non mi venga a dire, no? Non ci venga a dire che ah sì, questo qua si è comportato male il giornalista, insomma, ha parlato di fronte a una telecamera accesa. Però ha anche detto nelle dichiarazioni cambiare aria, perché insomma vedere sempre le stesse persone, gli stessi giornalisti, le stesse domande. Era un messaggio abbastanza chiaro da questo punto di vista. Il messaggio è chiaro, appunto. Poi lui cosa fa? Non fa queste dichiarazioni alla stampa catalana, le fa a un giornalista italiano, in italiano, insomma è tutto architettato in maniera molto molto poi subito molto dire precisa. Va alla Roma, ecco Guardiola, ma allora non c'è neanche il presidente, perché questo di Benedetto lo voglio ancora capire chi è. Non ha ancora capito nessuno. L'altro giorno su Sole 24 Ore, senza far pubblicità, l'organo di casa nostra, che qualcosa di economia e finanza sa, questo di Benedetto, ma in America, ma chi lo conosce? Ma chi è di Benedetto? No? A me ricorda un po' l'indiano che ha comprato il Racing Santander. Sì, o l'italo-americano che ha comprato la Salernitana per un giorno due settimane fa. Non vorrei arrivarsi a questi... No, vediamo, poi magari ci sbagliamo, insomma, però vediamo. Tanto il tempo su queste cose, mette ognuno a suo posto. Se ci sono i soldi, ci sono e basta, no? Dare soldi e vedere cammello, come dice lo Tito quando vende i giocatori. Sì. Non ci piove. Ragazzi, dove va Mourinho invece? Filippo, no, e poi Paolo. Resta sicuramente. Voglio ridere se le perde tutte, perde Coppa del Re. Anche magari con zero titoli. Intanto il figlio ha già portato a casa il campionato col Canillas, e quindi già un titolo la famiglia ce l'ha. Allora siamo tutti più contenti. Esatto, quindi già un primo titolo in casa c'è. No, resta anche a zero titoli. Io diciamo vado in questa direzione. Ma com'è la vicenda con Valdano? Perché adesso tutto silenziato. È stato fatto fuori. Hai visto l'altro giorno l'ha anche detto: sì, non ci parlo da 3 mesi. Ah, perfetto. Ma Valdano è stato fatto fuori, Valdano doveva dimettersi tutta la vita. Però siccome c'è uno stipendietto, mi sembra da un paio di milioni all'anno, diciamo fa buon viso a cattivo gioco. Cioè tu dici già l'aver preso Mourinho era una sconfitta di Valdano. Questo mi stai dicendo? Sì, ma poi dopo, però Valdano era disposto ad accoglierlo a braccia aperte, anche se insomma, e poi in realtà Mourinho non ha voluto questo abbraccio, e dopodiché gli ha torto il braccio, ha cercato di farlo fuori, l'ha esautorato da quella che è la vita della squadra, perché non può neanche salire sull'aereo della squadra. Filippo, ma è vero che prima di questo episodio piuttosto acclarato lo sono andate a prendere Mourinho con le valigie dall'uscita di Valdebebas, perché gira questa voce ben informata di lui, insomma, che abbia sbattuto la porta e hanno chiuso il cancello prima che varcasse in maniera definitiva la soglia dell'uscita. No, ha sbattuto un attimo i pugni sul tavolo. Io quando si parla di Mourinho bisogna sempre ricordare la componente teatrale dell'uomo, che è importante. Certo. Mourinho è un calcolatore, però è anche un grandissimo attore, per quello diciamo io lo stimo, perché comunque in questo, alla fine parliamo di sport, un attore ci sta sempre bene, secondo me. Non bisogna esagerare, insomma, lui ha avuto una guerra, una battaglia, insomma, poi come succede in tante grandi aziende. Questa è un'azienda da 450 milioni di fatturato, quindi no, c'è una battaglia per le posizioni, per il potere, certo, c'è stato lui l'ha vinta, uno scontro di potere, ha vinto e non fa prigionieri come non ha mai fatto prigionieri. Filippo è come al solito piacevole, anzi di più, parlare con te e con Paolo Ghisoni, ma dobbiamo andare a casa tutti, almeno voi andate a casa, io faccio il basket dopo. Grazie, facciamo Filippo, una puntata Maria solo sulla Liga con lui. Sì, ma anche 2, 3, 4, 5, 6, 10. Grazie Filippo Maria Ricci, grazie. Un abbraccio. Grazie a Paolo Ghisoni che è tornato a trovarmi e a tornerà voi a trovarmi a Stretto Giro di Posta. Giorgio De Luca in redazione, Pietro Accorti in regia. Io però resto qui, perché dalle 8:30 alle 9 vi raccontiamo una giornata di basket. A dopo.